La zanzara con Alessio Maurizi. Ragazzo dell'Europa, non perdi mai la strada, tu che prendi a calci la notte, bevi fiumi di vodka e poi ti infili i miei jeans. Tu cominci sempre qualcosa, poi mi lasci sospesa e non parli di te. Tu, ragazzo dell'Europa. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati anche questa settimana alla Zanzara. Staremo insieme fino alle 20.30, 800 24 0024 per intervenire anche questa sera in diretta 349 238 6666 per i vostri sms. La Zanzara è radio24.it, seguiteci anche su Facebook, La Zanzara. Non potevamo non dedicare questa canzone a Umberto Bossi, Tu ragazzo dell'Europa. La dichiarazione di oggi è senz'altro la più importante della giornata politica, quella di Bossi che dice andiamo dietro all'Europa. Bossi che contro l'Europa in passato ne ha dette parecchie. C'è questa lettera di Francoforte all'Italia, scritta dalla BCE? Sì, questo è vero. Dobbiamo andare dietro un po' all'Europa. Dobbiamo andare dietro l'Europa. Dentro i tuoi boulevard. Dobbiamo andare dietro all'Europa, dice Umberto Bossi, e c'è anche questo giallo insomma, della lettera inviata dal governatore della Banca Centrale Trichet insieme a Draghi e a Berlusconi. Non è un giallo, è una lettera che è arrivata e l'ha confermato lo stesso Bossi, ed ecco che le conseguenze sono andiamo dietro all'Europa. Il tema è, secondo le opposizioni, l'Italia è commissariata dall'Europa, non c'è più un governo, come dirà, come sentiremo tra poco, Di Pietro, per esempio, un governo democratico, ma siamo commissariati dall'Europa. Così invece risponde Bossi. Il governo è commissariato o no? No, certo l'Europa, la Banca Europea ha saputo. Quindi un po' vi condiziona? Positivamente, perché a dire la verità è la realtà che è venuta a trovarci. Per tanto tempo il paese ha speso più di quanto poteva, un bel giorno la realtà ha preso il treno e è venuta a trovarci. Non male questa espressione di Bossi, la realtà ha preso il treno e è venuta a trovarci dopo che per tanti anni il paese ha speso più di quello che poteva permettersi. A dire la verità, un'analisi sicuramente calzante con le osservazioni, le analisi che si trovano su tutti i giornali, non è una grossissima novità, insomma. Però adesso c'è forse una presa d'atto anche del leader della Lega, Umberto Bossi, rispetto ad altri momenti del passato. Bossi che senz'altro non manca della capacità di adattarsi e di cambiare anche così posizione politica nel momento in cui ne sente il bisogno, e questa sicuramente è anche una sua grande dote politica. Ancora Bossi, che oggi ha incontrato Tremonti e Calderoli a Gemonio, sembra che la Lega sia rimasta l'unica a fare politica in qualche modo attiva, e si fa ancora vedere in questi giorni d'agosto. Bossi sui tagli alla politica, dice, sarà la prima cosa che faremo. Senta, ma la politica, proprio i costi, non riuscite a tagliarli? Sì, no, abbiamo già progetto di tagli alla politica, una delle prime cose che abbiamo fatto. Col cuore fuori strada. E infine il ragazzo dell'Europa, Umberto Bossi, dedica una pernacchia all'ipotesi di elezione anticipata, sentitelo. Le elezioni 2012 sono scongiurate? Come si fa? Elezioni? Beh, non dopo il 2013. Però non c'è problema di elezioni. Non era proprio un pernacchione, ma era una pernacchia. Le immagini poi parlavano chiaramente da questo punto di vista. Di parere opposto un ministro del governo, Galan, che dice elezioni l'anno prossimo? Sì, secondo me sì. Sentiamolo. Secondo te quando è che si andrà alle elezioni? Adesso dico una cosa che mi segnerà. Dovrei rispondere. Se fossi un abile politico, la legislatura finirà nel 2013. Siccome non sei un abile Siccome politico... sono un pessimo politico e tanti atti lo dimostrano, compresa forse la mia partecipazione qui questa sera, io dico che andremo a votare nel maggio del 2012. È una cosa che mi sembra logica. Il mondo è cambiato più velocemente, a una velocità superiore a quella normale, e quindi tutto deve adattarsi alla velocità a cui viaggia il mondo e non a cui viaggiano le date della politica. Non sai dove andrei. Già, Carlo Galan che, parlando a Cortina Incontra, riesce ancora incredibilmente, secondo il mio punto di vista, a strappare un applauso sulla promessa dell'abolizione delle province. Sono 150 anni che se ne parla, lui è al governo e la promessa però evidentemente basta a scaldare la platea di Cortina Incontra. Sentitelo. Non ti sembra... Te ne dico un'altra, no, l'ultima, aspetta. Aboliamo le province. Ecco. No, ma sarà mica difficile. Ma no, quelle fesserie per cui, ma questa è piccola, quella è più grande, teniamo solo quelle più grandi. Ma insomma, aboliamole che sia finita. Aboliamole tutte. Invece oggi in un articolo, secondo me, illuminante, interessante, oltre che condivisibile, di Stella e Rizzo, i due giornalisti del Corriere che della casta hanno parlato e scritto molto, dicono: se non si riesce ad abolirle tutte le province, perché è dimostrato ormai che ci sono 9 iniziative di legge in Parlamento per abolire le province, nessuna chissà perché ha superato la fase embrionale e non è diventata una proposta operativa, allora dicono loro: cominciamo ad abolire almeno quelle più piccole, per esempio. Invece Galan è più grande, dice: no, aboliamole tutte. Però, ripeto, un applauso incredibile, perché da un ministro ci si aspetta che lo faccia. Convocate un consiglio dei ministri quest'estate e fate un decreto per abolire le province, caro Galan, se no niente, insomma, ecco. Abbiamo ancora un altro Galan, sentiamolo, un passaggio a proposito della mancanza di coraggio di Berlusconi, che dovrebbe ritrovare il coraggio. L'abbiamo già sentito nei giorni scorsi, Galan, con questo concetto di un ritorno, una certa nostalgia di Galan per gli anni più ruggenti di Berlusconi, sentiamolo. Io gli direi di tirar fuori tutto il coraggio di cui è capace, che è immenso. Gli direi di tirar fuori tutta la capacità innovativa di cui è capace, che è spaventoso e si è visto. Ecco, il momento è eccezionale, serve qualche cosa di eccezionale, non di ordinario. Cosa c'è di sbagliato nella manovra allora? C'è quello che manca, mancano i grandi atti di coraggio, le rivoluzioni in senso liberale, manca quella rivoluzione che noi avevamo promesso, peraltro. Trovi sempre un passaggio per andare a chiudere. Mancano le riforme, dice Galan, e Galan che dà un altro suggerimento a se stesso, cioè al governo, e dice: è il momento di abbassare le tasse. Abbiamo avuto 15 anni a disposizione per abbassarle queste tasse. So che adesso è più difficile, però io sono dell'idea che tutto stia in una domanda essenziale. È possibile una rivoluzione liberale in un momento di crisi? Tremonti, gli statalisti rispondono di no. Io rispondo di sì. Si può fare, anzi, in un momento di crisi si deve fare, un momento in cui possono passare misure assolutamente anomale. E più diverse tra loro non potrebbero essere le ricette di Galan da quelle di Nichi Vendola, che dice: è il momento invece di rimettere al centro le tasse, ma naturalmente non credo per abbassarle dal suo punto di vista, ma per valorizzarle. Sentiamo. Bisogna rimettere al centro, diciamo, della nostra cultura quotidiana, con coraggio, perché capisco che non è popolare dire tassare è un compito fondamentale dello Stato, perché senza la leva fiscale non si possono garantire i diritti essenziali, quelli che sono scritti nella nostra Costituzione e che fanno dell'Europa un posto speciale: il diritto alla scolarizzazione, il diritto alla salute, il diritto alla previdenza, cioè diritti di cittadinanza che non possono essere trasformati in merce da comprare o vendere al mercato. Così Nichi Vendola. Sentiamo invece l'altro leader dell'opposizione, Antonio Di Pietro, che invita Berlusconi ad andarsene spintaneamente. Non è un gioco di parole, cioè è un gioco di parole, non è un errore. Sentiamo perché. Dobbiamo innanzitutto liberarci dei lacci e lacciuoli del governo Berlusconi, e l'unico modo è che lui si dimettesse, ma siccome lui non si dimette, il suo Parlamento è asservito, noi attraverso il referendum per abrogare la legge elettorale e attraverso mobilitazioni di piazza e di massa che faremo sempre più alla ripresa autunnale, faremo in modo che sia spintaneamente buttato fuori da Palazzo Vinci, in modo democratico ma spintaneamente. Che fai l'amore selvaggio. 824-0024, una breve pausa per il traffico e poi torniamo tra un attimo. Sentiremo gli ascoltatori, naturalmente, al numero verde, ma anche il primo ospite della sera, che è l'onorevole Enrico Speroni, europarlamentare della Lega Nord, col quale faremo un chiarimento sulla linea della Lega. Abbiamo dedicato Ragazzo dell'Europa al leader Umberto Bossi. Ragazzo dell'Europa. 800 24 00 24, 349 238 6666 per i vostri sms. La zanzara at radio24.it. E allora, come detto, buonasera Enrico Speroni. Buonasera a tutti. Eurodeputato della Lega Nord. Lei qualche giorno fa era tornato in piena crisi, diciamo in crisi di euro, in crisi di borsa italiana, a dire che l'euro ci aveva praticamente solo portato sfiga, era questa l'espressione che lei aveva utilizzato. Sì, sì. Mi sembra che questo lo vediamo tutti, da quando c'è l'euro sono aumentati i prezzi e a un certo punto manca quella possibilità che c'era una volta della cosiddetta svalutazione competitiva, cioè siamo dentro ingabbiati in questa moneta e quindi abbiamo perso la nostra sovranità monetaria, perché ormai certe manovre non vengono più decise dall'Italia ma vengono decise a livello europeo, quindi ovviamente è stato fatto volontariamente, nessuno ci ha puntato pistole alla tempia, però le conseguenze le stiamo vedendo anche in questi giorni. Senta Speroni, ma l'obiezione tipica che si fa a questo tipo di argomentazione è che se l'Italia fosse rimasta invece fuori dall'euro, adesso in una situazione per esempio di difficoltà dei mercati internazionali saremmo stati colpiti singolarmente, saremmo stati forse più deboli. Cosa che ma è già successa anche in passato. Di crisi ne abbiamo avute tante e le abbiamo sempre superate. Questa mi sembra un po' più grossa delle altre, è solo che appunto ci mancano certi strumenti di manovra, non possiamo decidere in maniera autonoma, ma dobbiamo seguire delle, non chiamiamole imposizioni, delle regole che volontariamente abbiamo accettato, ma che appunto restringono il nostro ambito di intervento. Poi che l'euro sia una garanzia non è assolutamente dimostrato, tant'è vero che il caso della Grecia sta proprio a indicare che si può andar male, si può arrivare alla soglia del fallimento anche stando dentro l'euro, anche avendo come moneta l'euro. Avendo l'importante è stare sulla soglia e non oltrepassarla magari. No, ecco, allora sarebbe... la Grecia sarebbe andata in sì. malora se non fossero intervenuti degli aiuti, ma gli aiuti possono intervenire che ci sia o che non ci sia l'euro. L'unico vantaggio per la Grecia di essere stata dentro l'euro è che per evitare uno sconquasso a livello europeo sono intervenuti vari soggetti ad aiutarli, ecco, però anche lì la Grecia ha dovuto accettare tutte le imposizioni che le venivano date proprio per poter accogliere questi aiuti, quindi il fatto che ci sia l'euro o non ci sia l'euro non è assolutamente una garanzia di stabilità. Certo, abbiamo visto paesi come l'Islanda o l'Argentina che sono andati in malora o quasi stando fuori dall'euro, però appunto vediamo che paesi dentro nell'euro, nell'eurozona, non per questo sono al riparo da certi sconvolgimenti, quindi l'euro non è uno scudo, una garanzia, è semplicemente uno strumento che per alcuni può essere buono, per altri no. Vediamo ad esempio il Regno Unito, l'Inghilterra, che è fuori dall'euro e non ha queste ripercussioni negative che abbiamo noi, che ha la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, che invece sono dentro nell'euro. Io però ho detto che Bossi ha sostanzialmente adottato una linea diversa rispetto al passato, rispetto all'atteggiamento da tenere nei confronti dell'Europa, e dico anche che positivamente per Bossi questa è una capacità, quella di fiutare le situazioni e di avere la capacità anche di cambiare posizione e punto di vista, ma ha detto, l'avrà sentito oggi, no? Se seguiamo l'Europa, andiamo dietro all'Europa. No, allora, qui non si tratta di cambiare idea, io non è che sono contro l'euro eccetera, nel senso che c'è, a me era stata fatta una domanda, sarebbe stato meglio non entrare e a mio giudizio, può essere sbagliato, era sì. Ma una volta che hai preso degli impegni, che hai firmato dei trattati, non puoi dire ma siccome mi sarebbe piaciuto o sarebbe stato meglio non farlo, a questo punto non li rispetto. Cioè i patti vanno rispettati, Bossi che è una persona innanzitutto corretta, sa che siamo nell'Europa, sa che abbiamo certi vincoli e dobbiamo agire. Ecco. In questo campo, ma questo, mi sembra normale. Questo ecco, però quindi vuol dire in qualche modo che la Lega è super euroscettica come è stata in passato, no? Sta finendo, finisce, non c'è più quella Lega lì, in questo momento almeno. No, un conto è poter criticare l'euro, poter criticare l'Europa e così via. Un conto è dire: abbiamo delle regole, rispettiamole e agiamo all'interno delle norme che volontariamente ci siamo dati, anche se ovviamente volontariamente si fa per dire, perché a differenza ad esempio di Francia, Olanda, Irlanda eccetera, certe norme dei trattati non sono mai state sottoposte a referendum, sono state approvate, ratificate dai parlamenti, per carità, e in democrazia si presume che il Parlamento rappresenti la maggioranza dei cittadini, noi avremmo voluto magari un altro percorso, però ripeto, siamo nell'Europa, l'Europa ha degli svantaggi, ma non possiamo solo per quello dire non sfruttiamo le opportunità che l'Europa ci sta dando, perché ecco, però, non è tutta negativa l'Europa, ci mancherebbe pure. Però adesso siamo quasi al paradosso, per cui questa è la sua posizione, c'è invece l'opposizione che dice beh, l'Italia a questo punto è di fatto commissariata, perché con questa lettera di Trichet a Berlusconi, che detta un po' le condizioni che bisogna seguire, io il mio pensiero è che sia commissariata, almeno la sensazione, proprio lo Stato italiano, nel senso se la BCE deve intervenire per acquistare i titoli del debito italiano, pone delle condizioni, così come succede ovunque nel mondo da questo punto di vista. Però questo tema dell'Italia o meno a piena libertà, Italia commissariata da Bruxelles, lei che ne pensa? Non è che sia commissariata, a parte la BCE sta a Francoforte e non sta a Bruxelles, ma non stiamo a fare queste distinzioni. Il discorso è: siamo all'interno delle regole, abbiamo bisogno di un sostegno per vari motivi che penso tutti conosciamo, ed è chiaro che non è che uno dice io ti aiuto, però così a prescindere, come diceva Totò. Ci ha posto delle condizioni, ma non sono certo le condizioni che sono state poste nei confronti della Grecia. Cioè, se l'Italia è commissariata, la Grecia così è diventata una colonia dell'Unione Europea? Non è assolutamente così. Pensiamo anche quando abbiamo avuto in passato bisogno, ci siamo rivolti al Fondo Monetario Internazionale, anche quello ci ha dato dei prestiti, ma naturalmente si pongono delle condizioni, ma lo stesso quando uno va in banca a chiedere un prestito, anche la banca gli pone delle condizioni, fa delle verifiche. Qui siamo a livello tra Stati, Unione Europea, Banca Centrale Europea, vengono poste delle commissioni, ma mi sembra esagerato dire che è commissariata. Non è che Trichet ha mandato qualcuno a sostituire il nostro Ministro dell'Economia, o che Barroso ha assunto l'interim della presidenza del Consiglio in Italia, ecco. Senta, a me ha colpito nel discorso di Berlusconi al Parlamento qualche giorno fa il fatto di aver sentito parlare di riorganizzazione delle province, a proposito dei tagli che tutti gli italiani si aspettano alla spesa della macchina dello Stato. La Lega è sempre stata durissima sugli sprechi, però mi spiega perché invece la Lega sulle province non vuole abolirle. Ma allora, non le vogliamo abolire, non diciamo proprio tutte, però io sono lombardo, la Lombardia è una regione che ha quasi 10 milioni di abitanti, più o meno gli stessi del Belgio, e nel Belgio ci sono lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e nessuno si sogna di abolire. Il Belgio non è un grande esempio, Speroni, perché è in una crisi politica almeno da anni. Il Belgio non è una crisi politica, ma non è. Noi stiamo parlando adesso di crisi economica. Qualcuno dice aboliamo le province perché costano troppo. Poi se si va a vedere, nessuno vuole abolire veramente le province, perché le prefetture rimarrebbero le questure, rimarrebbero gli uffici della motorizzazione, eccetera, eccetera, perché non è pensabile che un cittadino, un'azienda di Sondrio debba per forza far capo a Milano. Ripeto, parlo da lombardo, quindi so più o meno la situazione. Cioè, ma questi, Speroni, sono argomenti un comune che, magari di 2.000 abitanti che dialoga con una regione di 10 milioni di abitanti, mi sembra che manca questo livello intermedio. Poi, appunto, ripeto, qualcuno ha parlato di abolire, che so io, quelli che erano i provveditorati agli studi a livello provinciale. No, si dice solo aboliamo il presidente, la giunta e il consiglio, cioè aboliamo gli organi eletti della provincia, quindi non è che vengono abolite le province, rimarranno, che so io, il PRA a livello, il pubblico registro automobilistico a livello provinciale, rimarrà tutto tranne gli eletti, ma questo l'aveva già fatto Mussolini, non c'è mica bisogno di vedere, e non mi sembra che con questo Mussolini ha risolto tutti i problemi istituzionali ed economici del paese, mettendo un funzionario al posto del presidente delle province. Sì, però io davvero non capisco. E poi questa difesa che lei fa, argomentata, che la Lega ha fatto anche altre volte delle province, o quantomeno del fatto che abolirle sia dal suo punto di vista semplicistico, che non risolverebbe il problema. Però mi sembra un argomento che vale in una situazione, diciamo, ordinaria, no? Adesso non siamo in una situazione però straordinaria, cioè l'Italia non è chiamata davvero a fare degli sforzi che fra l'altro allora, farebbero bene, insomma, a prescindere, vogliamo, come diceva Totò, no? Un po' meno di spese. Perché non aboliamo le prefetture allora anziché le province? Non lo so. Aboliamo le questure. Aboliamo le questure, aboliamo i commissariati e facciamo adesso non devo essere io Speroni, non devo essere io a rispondere, perché naturalmente io sono solo quello che pone le domande, non quello che dà le risposte. Però la questura è l'ufficio del Ministero dell'Interno, che rappresenta le forze dell'ordine, quindi quella è necessaria. La provincia è un'articolazione politica tra le tante che ci sono e che si potrebbe abolire. Se vuole abolire, deve essere coerente e l'abolisca tutto. Non è che una cosa l'abolisce e quell'altra no. Allora cosa vuol dire abolire le province? Allora si dica chiaro, aboliamo gli organi democratici eletti nelle province e ci mettiamo dei funzionari che non rispondono ai cittadini. Ecco, noi difendiamo la provincia, o meglio i suoi organi elettivi, semplicemente per una questione di difesa della democrazia. Tutto qua. Chi vuole abolire le province, sì. Ma ripeto, non vuole abolire le province, sennò dovrebbe abolire le questure, gli uffici provinciali della motorizzazione, il pubblico registro automobilistico, gli uffici scolastici provinciali, eccetera. No, vuole solo abolire il consiglio provinciale, quelli che sono eletti, e mettere tutto in mano ai funzionari. E non ci sarebbe poi questo grande risparmio, perché oltretutto quello che oggi fa il Consiglio, la Giunta e il Presidente lo dovrebbe fare qualcun altro, e quindi qualcuno che lavora e che viene pagato per fare queste funzioni ci dovrà essere. Quindi non c'è neanche questo risparmio qua. Però, ripeto, è una questione di difesa della democrazia. Ma lei pensa che possiamo ancora permettercelo di difendere la democrazia proprio nelle province? Insomma, perché abbiamo i comuni, le regioni, il Parlamento. Se proprio dobbiamo abolire, aboliamo i prefetti e le questure. Vediamo quanto risparmiamo. Sai quanto guadagna un prefetto? Molto di più di un presidente di provincia. Vabbè, ma questa proposta però, se secondo lei è credibile... Cioè, scusi, Perché lei adesso è all'Europarlamento, però se la Lega ritiene una proposta del genere credibile, mettiamola nel novero delle cose da fare. Come al solito ci sono dei vetti. Noi abbiamo sempre proposto, già come Luigi Einaudi a suo tempo, di abolire i prefetti, però c'è una resistenza, come non si riesce ad abolire l'ordine dei giornalisti e tante altre cose, no? Come non si riesce a liberalizzare le farmacie, i notai, eccetera. Cioè, in Italia, sì, appena cerchi di cambiare qualcosa, si oppongono tutti. Allora si cerca magari di cambiare la cosa più inutile. Io ho detto, appunto, aboliamo il presidente della provincia, aboliamo il prefetto, è una questione di costi. Se io ho una Mercedes e una Panda e devo risparmiare, vendo la Mercedes, non è che vendo la Panda, no? Però sa cosa scrivono gli ascoltatori al 349-238-6666, il nostro numero verde, il nostro numero SMS, mi scusi, dicono: non è che per caso difendete le province perché avete molti eletti? Nelle province mi pare, sì o no, avremo su 100 e passa, avremo 10 presidenti di provincia, quindi non è assolutamente una difesa, ripeto, è molto meglio abolire i prefetti che costano molto di più, aboliamo le prefetture e trasferiamo tutte le funzioni delle prefetture, le trasferiamo ai consigli, alle giunte e ai presidenti di province. Dissi che si risparmia davvero. Grazie Speroni, ci abbiamo la borsa che attende, buona serata, grazie per essere stato con noi. Grazie. E ritorniamo tra poco all'824-0024, restate con noi. 18 e 36 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati. Allora, cominciamo tra pochissimo a sentire i vostri interventi all'824-0024. Prima però un po' di spunti per questa serata, titoli del TG2. Wall Street apre con un forte ribasso, New York paga duramente il declassamento del debito degli Stati Uniti, atteso un discorso del presidente Obama, a picco le borse europee. Bruxelles promuove le misure dell'Italia, non ci sarà bisogno di un piano di salvataggio, la BCE compra i titoli italiani e quelli spagnoli, scende subito il differenziale con i bund tedeschi. A Londra un'altra notte di scontri dopo la rivolta nel quartiere di Tottenham, gang all'assalto anche in altre zone della città, oltre 100 gli arresti. In Toscana, ma come nella giungla, una pantera avvistata e fotografata nei boschi del Grossetano, mentre Lucca, dopo una rocambolesca caccia, è stato catturato un boa. Solita caccia agli animali esotici che si scatena d'estate. Abbiamo anche studio aperto. Crisi, incontro Bossi Tremonti egemonio, riforme subito, seguiamo l'Europa, ha detto il leader della Lega. Un'altra giornata nera per le borse, ma Bruxelles promuove l'Italia. Bene le misure prese, non ha bisogno di salvataggi. Tragedia nel Napoletano, durante una partita di calcetto un bimbo di 10 anni è rimasto schiacciato dalla porta su cui si era arrampicato per recuperare un pallone. La vita è bella, non voglio morire, le ultime parole del piccolo. Lo zio accusa i soccorsi arrivati in ritardo. Una svastica sulla coscia, altri segni e quella siringa conficcata nel petto. Sul colpo martoriato di Melania ci potrebbe essere la firma di chi ha ucciso, ma restano ancora troppi misteri. I talebani rivendicano l'attentato ai nostri militari. I quattro paracadutisti feriti dall'esplosione di un ordigno sono stati vittime di un agguato e secondo il governo afghano anche l'elicottero americano dei Navy Seals abbattuto 2 giorni fa è opera loro. Caccia grossa nelle campagne toscane. A Lucca ha catturato un boa di 2,5 metri, feriti 2 volontari. Nel Grossetano si cerca questa pantera nera che da giorni terrorizza abitanti e turisti. E alla fine ecco la prova, la Pellegrini e Magnini immortalati in un bacio a Shanghai. Dopo giorni di voci smentite, il settimanale Chi pubblica gli scatti delle loro effusioni. Ma attenzione, uno di questi è datato 2007, tutti retroscena, domani nel nostro settimanale Tabloid. Ragazzo d'Europa, non perdi mai la strada. E la strada porta decisamente a Bruxelles, quella di Umberto Bossi, a cui abbiamo dedicato questa sera la canzone di Gianna Nannini, Ragazzo dell'Europa. Bossi che ha detto andiamo dietro all'Europa. E sappiamo che in passato all'Europa Bossi aveva dedicato espressioni un po' meno simpatiche. 1839 824 0024, ascoltatori, cominciamo da Jonathan che ci chiama da Pistoia. Buonasera. Sì, ciao, buonasera. Innanzitutto non mi lego ai complimenti che ti hanno fatto tutta la scorsa settimana, anzi una piccola critica se posso. Prego. Il nome Zanzara non è appropriatissimo con te, forse Mosca, perché tocchi gli argomenti peggiori italiani, però pungi poco rispetto al buon Cruciani e al buon Parenzio. Ce n'è per tutti i gusti, prego. Detto questo, a parte le cose, cioè, se l'onorevole di prima dice se devo vendere una Mercedes o una Panda, vendo un Mercedes, che l'auto blu iniziano a comprare Panda. Questo giusto per premesso, perché vedo tutte Audi 3000 turbo diesel e non vedo Panda 1100 Fire, visto che siamo in Italia. Però io volevo solamente fare a parte questo, quello che ha detto, una cosa sola ha detto, forse giusta, che bisognerebbe fare l'Italia un tempo mangiava, abbiamo mangiato troppo nel passato e ora non ci possiamo più permettere di mangiare barra spendere. Tutti si dice che devono risparmiare i politici, bisogna abbattere i costi della politica. Ricordo a tutti che prima, quando mangiavano politici, mangiavano anche i nostri genitori, i nostri nonni. Io mi sono permesso a dire a mio papà, che ne diresti se tu vai in pensione a 65 anni visto che tu sei tanto giovane come tu dici te, a 54? Sei incavolato no Ciccio, io ho lavorato e me lo sono meritato. Peccato che tutta gente che ha lavorato 25 anni sono già in pensione. Io, suo padre quanto pensione, ha lavorato? 25, suo padre quanto ha lavorato? No, mi fa 35 anni da lavorati, però se è tanto giovane visto che io è da 17 anni lavoro andrò in pensione, se esiste la pensione tanto vale, allora allunga anche la loro. In Italia siamo bloccati perché i giovani non possono dire nulla perché è un conto nulla, anche se scendono in piazza. I nostri genitori dicono no, ma noi ormai abbiamo acquisito i nostri diritti, ce lo meritiamo da andare in pensione, però poi dicono che sono tanto giovani. Secondo me se bisogna togliere ai politici, giustamente, è inutile dirlo, tanto vi se ne parla tutti i giorni, è anche bene però che i nostri genitori per primi facciano un passo indietro, soprattutto quelli che hanno campato sullo Stato, gente di 25 anni in ferrovia, al comune, e non elenco altri, non me ne vogliono questi due che ho elencato, però 25 anni andando in pensione rispetto a me, se permettete un furto quanto i 10.000 euro di un politico. Va bene, grazie. Infatti anche di riforma delle pensioni si parla, non creda, perché poi noi giornalisti parliamo tanto di di tagli ai costi della politica che probabilmente non arriveranno, e invece forse arriveranno proprio quello che dice lei, cioè i tagli alle pensioni. Jonathan? No, guerra mondiale. Eh? Non so se ha letto i giornali, si parla anche di anticipare la riforma delle pensioni. No, ma il problema è che in Italia sa la sfortuna ultimamente che si parla e basta, e non s'agisce. Ma perché? Da una parte l'Europa mette dei paletti allucinanti e non tutti lo sanno che l'Italia non può fare, anche perché ci sono dei paletti incredibili, e soprattutto perché ogni categoria, ogni tra virgolette mio genitore, ovvero 50-60 anni di ora, che copre una categoria, tutto il gruppo loro, appena si fa una riforma... Va bene, grazie, questo l'ha già detto. Grazie Jonathan. Buona serata. Matteo da Verona, buonasera, prego. Buonasera, buonasera. Eccoci qua. Niente, io mi ero prenotato ancora ieri per parlare dei costi della politica. Io andrei un po' controcorrente. Secondo me che i nostri politici prendano 12, 13 o 14 mila euro, adesso non so neanche quanto, non è un grosso problema. Il problema è cosa fanno per questa cifra. Cioè, uno dovrebbe prendere uno stipendio in funzione della qualità o delle competenze che ha. È giustissimo. Visto che non sì. Questo dovrebbe essere la base, no? Magari il problema potrebbe essere, il vitalizio, cioè la pensione dopo una o due legislature. Sprechi, questo forse. Ci siano gli sprechi, questo sì. Si sa, e ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Però io, essendo uomo di azienda, essendo insomma da tanti anni un manager, le aziende vanno avanti soprattutto se poi le persone, anche quelle migliori, sono pagate bene e si impegnano e raggiungono gli obiettivi. Mm. Se i nostri politici fossero anche loro pagati in funzione di obiettivi, sì, magari le cose migliorerebbero, perché comunque, che ci piaccia o non ci piaccia, devono amministrare una nazione che è formata da una sessantina di milioni di persone, parlando di Senta, di persone. Ma sui, perché questo riguarda i tagli previsti, presunti, ai costi, sì, della politica, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, se ne parla a ondate, e sul tema invece, diciamo, di oggi, di questo presunto commissariamento dell'Italia da parte dell'Europa? Allora, innanzitutto io sono contro quello che dice Speroni, e secondo me se avessimo la lira saremmo altro che Argentina di quando ha fatto il default. L'euro ci ha salvati. Il problema è che tanti parlano di finanza, di economia, di questi temi, senza avere la più pallida idea di cosa stanno dicendo. E l'onorevole Speroni, non ho idea di che studi abbia fatto, però non mi sembra che abbia capito bene cosa significa la svalutazione e cosa significa l'euro. Nel 92, quando la lira si è svalutata di circa 15 punti, se qualcuno si ricorda, io sono giovane ma l'ho studiato, e erano altri tempi, erano tempi in cui comunque l'economia mondiale girava. Adesso l'economia mondiale non gira, e se noi fossimo alla lira saremmo veramente inguaiati, molto peggio di quello che siamo adesso. Lei mi dice del commissariamento, io sono alla fine io penso che la Germania e la Olanda e chi per loro facciano bene a dare dei paletti. Cioè, se noi vogliamo uscire da questa impasse, la BCE ci impresta dei soldi per il nostro debito, anzi compra il nostro debito, è giusto che ci dicano cosa dobbiamo fare. Quindi, benissimo, era questo che volevo sapere, un'opinione su questo. Grazie Matteo. Abbiamo il traffico, 18.45, rientriamo tra pochissimo, 824 0024. Volevo leggere un messaggio tra i tanti che è giunto, meno male che ci sta salvando l'Europa, grazie a Prodi e Ciampi, scrive Paolo. Qualche messaggio anche sul tema sollevato dall'ascoltatore, le persone che hanno pensioni da 4.000 euro al mese, si può rettificare a 2,5, si può tagliare, infatti il tema è in agenda, quello delle pensioni, dicevamo. Allora, Luigi da Pisa, buonasera. Sì, buonasera. Volevo fare un intervento sulla Lega e su Bossi, no? Io volevo sapere Bossi negli ultimi 18 anni di politica italiana dove era, visto che si spendeva tanto, mi sembra che sia stato sempre lì. E per quanto riguarda Speroni, probabilmente a lui l'euro e l'Europa gli serve solo per fare come dice lui, non lo dico io, l'autostrada in Germania a 316 km all'ora. Ma questa politica invece dovrebbe non essere commissariato con una lettera anonima, ma con una lettera pubblica agli italiani, del perché l'Europa ha deciso di commissariare in questa maniera l'Italia. Le cose non fatte dagli ultimi governi, non fatte, dichiarate in una certa maniera, così da fare vincere le elezioni, con promesse tipo di togliere l'ICI, di promesse di togliere, di fare determinate liberalizzazioni che non sono state fatte, le promesse di abolire le province che non sono state fatte. Io proporrei di accorciare proprio la filiera della politica. Un paese che ha lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le comunità balneari. Eh sì, è un po' lunghina la filiera, come la chiama lei. Grazie. Infatti è di questo che molti tentano di parlare, però se ne parla solamente. E come dicevo, ricordavano questa mattina sul Corriere Rizzo e Stella, ci sono ben 9 iniziative parlamentari per l'abolizione delle province in questa legislatura e chissà perché non va avanti nessuna. Intanto c'è una notizia che riguarda le indagini sulla P3, perché sono state chiuse le indagini della Procura di Roma e a quanto si apprende l'ex coordinatore del PDL Verdini e il senatore sempre del PDL Dell'Utri rischiano il processo per associazione segreta volta a condizionare il funzionamento degli organi costituzionali, a quanto si legge negli atti di chiusura delle indagini. Marco dalla provincia di Treviso, buonasera. Buonasera, buonasera. Prego. Allora, condivido a 100% quello che ha detto quel signore di Verona che ha chiamato poco tempo fa. Marco, come lei si chiamava, sì. Uguale. Allora, la faccenda era questa. Mi dispiace che Speroni non sia più in linea, però a un certo punto dovremmo chiedere a questi politici i risultati e dare gli esami. Mi sembra che in questi anni la Lega soprattutto non abbia mantenuto le promesse che aveva fatto e si è occupata di occupare le poltrone, le sedie, sia locali sia a livello nazionale per il loro uso. Questo ha dato danni soprattutto al nord e a un certo punto dovremmo chiedere cosa hanno fatto in questi anni questi politici. E invito i miei concittadini ad essere meno fatalisti ma più esigenti e chiedere ai politici cosa fanno, perché non lo fanno, e devono darci una risposta. È urgente la cosa, perché nel prossimo autunno, quando apriremo le fabbriche, vedremo come sarà l'economia e come andranno le cose. È una cosa da fare prioritaria, secondo lei quale sarebbe? Più riforme istituzionali, tipo quella delle province, o cose di economia? Allora, questo governo, sì. Che non è serio, soprattutto abbiamo bisogno di serietà, serietà. E il primo ministro non è serio, anche se il mio primo ministro, dovremmo dare delle risposte all'Europa, e ha fatto bene Monti a dire che di fatto siamo commissionati dall'Europa. Perché? Perché non siamo seri, è inutile nasconderselo. Non riusciamo a controllare i forni del pane a Napoli, che sono in mano alla mafia, alla Camorra. E qui non vogliamo dire cosa, vogliamo entrare in Europa come? Ci rendiamo conto, non siamo serie. Va bene, grazie Marco. Lei auspica serietà, insomma, come prima biglietto da visita della politica, come primo anche in qualche modo provvedimento. Io avevo chiesto questo, lei ha risposto serietà. Ecco una risposta al 349-238-6666 degli ascoltatori alla sollecitazione del primo ascoltatore in linea. Ci dice Ale da Milano: mio suocero ha lavorato in comune, dopo 20 anni è andato in pensione a 46 anni, oggi ne ha 68, quindi sono 22 anni che è in pensione. Questa è una vera vergogna, tanto più vergognoso che lui stesso ancora oggi dice che è giusto e se lo merita. E poi quando si parla del suocero, naturalmente è facile anche tac andarci giù pesanti, però certo, andare in pensione a 46 anni è presto, ed era questo anche un po' il tema che sollevava il primo ascoltatore intervenuto questa sera. Claudio da Bergamo, buonasera. Claudio? Sì, buonasera. Ci sente, sì. Sì, buonasera. Io ho ascoltato i vari interventi e sono d'accordo anch'io su quello che avevo prima e quel signore di Verona. Io lavoro per una multinazionale, giro parecchio Europa e Medio Oriente, e una persona che guadagna 15.000 euro al mese, anche lordi, deve dare degli obiettivi molto elevati alla società, altrimenti dopo un anno deve andarsene a casa. La Lega, mi dispiace che spero non sia più in linea, ma la Lega, che era nata come movimento di rompente, si sta allineando, perché ha compreso una cambiarella nuova Democrazia Cristiana senza le capacità elettive che aveva la vecchia Democrazia Cristiana. È vero che ci sono tanti privilegi. Per dirne una, io che sono vicino ai 60, ogni tanto guardo il calcolo del pensiometro del Sole 24 Ore e non capisco come mai ci sono ancora categorie come gli elettrici, e quelli che lavorano sulle ex ferrovieri, che hanno una reversibilità che è di 20 punti superiori ai dirigenti o ai impiegati dell'industria privata. Sono ancora privilegi, diciamo, nascosti sotto la cenere, di cui nessuno parla. Però purtroppo, per poter fare questa rivoluzione copernicana, per rivoluzionare completamente il sistema politico, che purtroppo non vedo neanche dalla famosa forza dirompente governativa che era la Lega, in 10 anni che la Lega comanda, e di ridere sentire Bossi che dice: ci siamo permessi cose che non potevamo permetterci e adesso ci viene chiesto il conto. È 10 anni che sono loro che gestiscono le decisioni politiche in Italia e vengono fuori ora con questo discorso. Grazie non Claudio, funziona. Grazie Claudio, mi pare chiaro il suo concetto. Vincenzo da Novara, buonasera. Buonasera a lei. Prego. Grazie, no, innanzitutto un piccolo, cioè non vorrei intromettermi tra lei e il suo collega precedente, siete bravi tutti e due in maniera diversa. Invece volevo intervenire per quanto riguardava appunto l'intervento di Peroni, che per la verità un po' in contropiede l'ha presa, no? Veniva incalzato sul discorso del prefetto. Sì, lui diceva aboliamo le prefetture, e lo chiedeva sì. A me, io però ho detto che non sono io quello che deve dare le risposte. Ma lì c'è l'essenza sì. Di questo cambiamento della Lega, no? Sì. C'è l'essenza, cioè andare a nascondere che cosa vuol dire abolire le province. Abolire le province vuol dire cominciare a indebolire. Si sente un po' maluccio, Vincenzo, resti in linea e proviamo a recuperare un po' meglio questa telefonata, perché così non si capisce nulla. Donato da Potenza, buonasera. Sì, salve. Io vorrei intervenire sul tema anche dell'onorevole Speroni e volevo dare una risposta. Quando l'onorevole ha detto che non si può abolire le province perché è un deficit di democrazia, io gli rispondo che in realtà noi possiamo anche abolire le province, anche il PRA, tutto quello che lui vuole, perché possiamo creare dei consorsi di comuni a costo zero in cui comunque il cittadino è rappresentato da un suo eletto senza appunto un aggravio per le casse dello Stato. E il ragionamento di Speroni, che è di un movimento politico che io, essendo meridionale, comunque in alcune sue decisioni apprezzo, mi risulta un po' fazioso, perché sembra di un personaggio che è attaccato alla poltrona e che vuole rimanere lì a mantenere i posti per tutti i parlamentari, per tutti i politici che stanno in Italia, perché secondo me il vero problema della politica italiana, è da giovane che ho 24 anni e che mi interesso di politica, ritengo che sia proprio che oggi la politica è ritenuta un lavoro, mentre in realtà la politica non può essere un lavoro. Infatti io sono propenso a parlamentari politici che durano in carico massimo 2 legislature, abolendo anche il vitalizio, che per me risulta un'ingiustizia, un'equità. Quindi questo è il mio pensiero. Senta, lei che è di Potenza dice che ci sono delle cose della Lega che le piacciono, per esempio? Sì, a volte ritengo che a sud si fa troppo clientelismo, ci sono troppi sprechi, l'amministrazione non funziona, non ci sono infrastrutture, c'è una mentalità proprio di molti abitanti del sud che ritengono di dover essere assistiti, quindi questo assistenzialismo che in realtà io ritengo sbagliato, perché se noi vogliamo cambiare le cose dobbiamo iniziare a cambiare. Io le faccio un esempio: nella mia zona c'è una strada che è stata fatta dopo 30 anni, è stata finita, dopo una settimana che era finita era già rotta. Questo fa vedere che in realtà quando si fanno qui le cose non si fanno con un certo criterio, per questo apprezzo alcuni ragionamenti della Lega. Poi magari a volte la Lega sbaglia e va verso eccessi propagandistici, però in realtà io alcune cose, alcuni ammonimenti della Lega li condivido, nonostante essendo meridionale, e di certo non apprezzo l'idea di dividere l'Italia, perché ci sono stati dei sacrifici per unificarle. Va bene, grazie Donato, buona serata. Abbiamo recuperato Vincenzo da Novara, buonasera. Eccoci, grazie di nuovo, buonasera. No, le stavo dicendo appunto che Speroni, in quello che voleva nascondere, perché come sappiamo i politici non è importante tanto quello che dicono, ma quello che non vogliono dire, tentava di nasconderli la vera essenza di andare a intervenire, di incominciare perlomeno a intervenire con il mondo politico, incominciando dalle province, perché il presidente di provincia, dice lui, prende 8.000 euro, quello che prende non andiamo a andare a risparmiare. Non è così, perché un presidente di provincia, con quel che comporta essere un presidente di provincia, insomma, cominciamo ad andare a ledere gli interessi in realtà di un uomo politico più o meno importante, direi comincia a essere già importante, che comincia a fondare quello che è il suo contatto col territorio, il suo contatto che gli permette di avere dei suoi privilegi. Insomma, qui un presidente di provincia, appunto, prende 6-7 mila euro, dipende dalla provincia, ma poi come mai quando si arriva sul territorio un presidente di provincia in realtà nella sua regione, è nella sua zona, insomma, è un, scusi la parola, ma è così, è un boss, no? E come mai se noi andiamo in certe zone della nostra Italia c'è il politico che di riferimento che, per carità, prende 10.000 euro al mese nel caso è partita la musichetta. 18:58 minuti e 30 secondi, abbiamo il giornale radio, torniamo tra pochissimo. 824 0024. 19:16 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati. 824 0024, la seconda parte del programma, chiamate per intervenire in diretta come ogni sera, 349 238 6666 per i vostri sms. Titoli di Sky TG24. Wall Street in rosso, giù Milano, Moody's all'America, possibile il taglio del rating. Bruxelles accoglie con favore le misure italiane contro la crisi del debito. Bossi, bene così, andiamo dietro all'Europa, escluso Consiglio dei Ministri in settimana. Dall'opposizione richiesta di misure concrete e verità, il PD, aspettiamo Tremonti alla Camera. L'anticipo della manovra peserà sul fisco, l'allarme arriva dalla CGIA di Mestre. A Bacoli polemiche dopo la morte di un bimbo di 10 anni schiacciato da una porta di calcetto. Sono più di 200 a Londra gli arresti per gli scontri e le violenze in strada, 35 gli agenti feriti. A piccoli passi verso la soluzione si lavora per scongiurare lo sciopero dei calciatori. La nazionale a Coverciano prepara l'amichevole con la Spagna, Rossi in pole per l'attacco. Da Rossi a Rossi, Vasco polemizza con Ligabue, ma i fan del Liga reagiscono, sei bollito. Chissà quanto andrà avanti questo scambio tra Ligabue e Vasco Rossi, insomma, che può più o meno appassionare, sono comunque due grandi della musica italiana. 19:18, titoli del TG3. A picco Wall Street, dopo il declassamento di Standard & Poor's, si trascina al ribasso anche le borse europee, crollo a Francoforte. La BCE interviene sul mercato ed acquista titoli pubblici italiani e spagnoli, si riduce il differenziale con quelli tedeschi. Governo a caccia di risorse, le ipotesi, blocco delle pensioni di anzianità, aumento dell'età per le donne e rincaro dell'IVA. Bossi, bene l'Europa, governo commissariato, l'importante è che la BCE compri i nostri titoli, no urne anticipate, vertice con Tremonti. Giovedì l'intervento al ministro delle finanze, presenti tutti i leader del partito, il Partito Democratico, e chiarezza sulle condizioni poste dalla Banca Europea. A Londra, seconda notte di scontri tra bande di giovani e polizia, la guerriglia urbana da Tottenham dilaga in altri quartieri. Dopo la finta bomba al Colosseo, polemica sulla sicurezza dei monumenti nella capitale, è possibile che le telecamere di sorveglianza fossero spente. A Radio 24 Diego Abatantuono è tornato così sulla questione del film che lo vede protagonista, Cose dell'altro mondo, un film ambientato in Veneto in cui Abatantuono interpreta un imprenditore veneto che ce l'ha su con gli stranieri, però poi forse durante il film, non lo sappiamo, ma sembra di capire, cambierà in qualche modo opinione. Un film che ha sollevato le proteste di alcuni esponenti anche politici del Veneto, per esempio c'è chi come Massimo Bitonci, deputato della Lega Nord, ha fatto un'interrogazione parlamentare, anzi due, contro questo film. Sentiamo però Abatantuono. Siamo andati in giro per il mondo per 100 anni, dovunque, insomma, se tu parli, guarda, ci sono gli argentini su 3, 2 sono italiani, e in America ce ne sono tanti altri, insomma, in tutto il Sud America, in tutto il mondo, quindi voglio dire, non mi sembra normale pensare che potesse capitare a qualcun altro quello che abbiamo già fatto noi prima. Ancora Abatantuono dire i problemi con gli stranieri ci sono, ma non si risolvono con il razzismo. Ritengo che la paura della gente che arriva non si possa avere, bisogna avere la percezione che la gente arriverà per forza e quindi gestire in maniera più civile possibile. È ovvio che nella quantità arriva tutto, cioè come in Italia, nella quantità la qualità delle volte viene a mancare, ma non è certo discriminando che si risolvono i problemi, credo che solo integrando e andando incontro a quello che succederà inevitabilmente si possa risolvere il problema. E poi sempre Diego Battantuono ai nostri microfoni questa mattina a dire, avventurarsi quasi in un'analisi di tipo economico, occupazionale sul ruolo degli immigrati in Italia. In Italia mancano posti di lavoro, però ci sono dei lavori che gli italiani non vogliono più fare da tanti anni. Nessuno dei nostri genitori ci ha spinto verso dei lavori umili e questa è una cultura nostra, non è la cultura degli altri. Noi abbiamo cercato di fare in modo che i nostri figli non facessero questi lavori. Fortunatamente per un lungo periodo ci siamo anche quasi riusciti e quindi sono arrivate delle altre persone a fare questi lavori che andavano fatti comunque. Nel nostro film spariscono, però in realtà potrebbero scioperare, potrebbero fare tante cose, insomma. Questo discorso qua sui lavori umili, gli italiani che non li vogliono più fare, è un discorso secondo me da non sottovalutare, fa un po' parte della nostra tradizione, della nostra cultura. Mi sembra che in questo Diego Battantuono abbia colto forse un aspetto tra i tanti di quelli sollevati da questa polemica sul film Cose dell'altro mondo, molta pubblicità per il film, ma non importa, è comunque un argomento di discussione. Infine una dichiarazione di affetto di Battantuono nei confronti dei veneti. Non c'è nessuna intenzione di diffamare i veneti. Ho letto un po' di cose, ho guardato anche la quantità di contatti ed è veramente minima la percentuale di gente che la vede in questo modo, sono molto di più quelli che la vedono in positivo. Io ho un particolare affetto per i veneti, sembra quasi di essere un po' lecchino, ma non è vero. Io ho accettato di fare il film proprio perché non giravamo là, perché ci sto bene, al di là del fatto che mi fanno bere un po' troppo, perché sono grandi e ottimi bevitori, per il resto non c'ho contraddicazioni. L'avevamo raggiunta Paola Concia il giorno stesso del suo matrimonio in Germania con la sua compagna, in quella giornata, strappandola ai festeggiamenti, l'avevamo intervistata per chiedergli un po' come era andata e che tipo di matrimonio si può fare in Germania tra due persone dello stesso sesso. La facciamo risentire perché poi nel frattempo un editoriale di Avvenire di ieri ha preso di mira questo matrimonio parlando di nozze show. Tra poco sentiremo anche il direttore dell'Avvenire, ma prima sentiamo Paola Concia. Io non posso pensare che la mia unione in Germania ha tutti i diritti e doveri, ovviamente. È allucinante che io e Riccarda nel nostro paese siamo due strane, mentre qui siamo tutta una famiglia, bla bla bla. Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Abbiamo ripercorso più o meno le tappe di questa notizia. Ieri in un editoriale sul suo giornale, a proposito di questo matrimonio di Paola Concia, si diceva, insomma, il senso era un po' questo: nozze show, ci sono di mezzo anche i diritti commerciali, forse il virgolettato possa anche... Soprattutto che si era voluto celebrare un caso. Avevamo annotato questo, considerando anche le dichiarazioni del vicepresidente del Partito Democratico, Ivan Scalfarotto, che ha annunciato l'intenzione appunto di portare il caso Concia Trautmann in Italia. In che senso? Di portarlo come un caso emblematico per segnalare... Ma un caso giornalistico, un caso politico. Sì, un caso di che tipo? Politico? Certo. Però mi pare che nell'editoriale si vada oltre e si dica, se voglio trovare il passaggio... si parla della vendita dei diritti della cerimonia a una rivista. Sì, c'era la notizia che era stata ceduta in esclusiva Vanity Fair, la copertura fotografica dell'evento a una rivista, aderente ai peggiori istinti mediatici e commerciali. Credo che questa sia in quel passaggio il collega che ha commentato la cosa segnalava il fatto che stupisce che una persona come la Paola Concia abbia deciso di cedere in esclusiva a una rivista, si riteneva a titolo oneroso. A quanto pare, da quello che ha dichiarato l'onorevole Concia, e noi domani ne diamo atto sul giornale, lei ha deciso di farla a titolo gratuito, questo ha dichiarato successivamente. E tra l'altro c'è anche una querela oggi. Questa cosa, noi raccogliamo la precisazione della Concia, naturalmente. Perché lei vi ha querelato e quindi voi farete una precisazione su questo. Diciamo che ho previsto di rispondere nella mia rubrica, quella alla quale rispondo ai lettori, perché sono arrivate diverse lettere interessanti, anche lettere di persone che hanno scritto dall'estero, che la vedono diversamente da quella che è l'opinione del giornale, anche, ma questo è abbastanza frequente sulle pagine a venire, che a me piace confrontarmi con quelli che la pensano diversamente da me, non con quelli che la pensano come me, altrimenti è un po' noiosa la cosa. Insomma. Senta, Tarquinio, però mentre diciamo sul fatto del matrimonio omosessuale, se sia ammissibile o meno, auspicabile o meno, si possono naturalmente avere tutte le opinioni di questo mondo, sul fatto delle nozze in sé che lei ha fatto in Germania, un paese dove appunto è normale farlo, perché dire nozze show e questo commento, quando per altri personaggi, anche politici, il matrimonio di Brunetta, della Carfagna, vengono venduti i diritti, il matrimonio di tutti i VIP, insomma di tutti, di molti, finisce poi per andare sulle pagine dei giornali e spesso ci sono anche vendita di diritti e cose di questo genere, però non mi pare che in altri casi abbiate fatto lo stesso commento. Ma questa è la linea interpretativa di Avvenire invece rispetto a questi casi, lo sanno un po' tutti quelli che ci seguono, che non siamo teneri con un certo tipo di politica show e con il gossip diciamo trasformato in veicolo di promozione propagandistica di contenuti e di personaggi politici e non solo. Questa è una linea editoriale che seguiamo da tempo, ma forse c'è anche un certo, come dire, una certa stanchezza che sta emergendo anche nell'opinione pubblica, perché i giornali che grondano di questo tipo di notizie, mi pare che no, non stiamo andando benissimo, noi sì. Quotidiani stiamo vivendo una stagione molto tormentata, a me conforta vedere che Avvenire è uno dei giornali che tengono invece, con un tipo di informazione diversa. Senta, nell'intervista che noi abbiamo mandato in onda l'altra sera, Paola Concia diceva anche di aver ricevuto messaggi di auguri, di solidarietà, ma soprattutto di auguri da esponenti anche del centrodestra come Mara Carfagna, Nunzia Di Girolamo, che sono più o meno, insomma, differentemente sostenitrici di una, per esempio, la legge sull'omofobia, anche se non direttamente del matrimonio omosessuale. Dal suo punto di vista, visto questa smentita della Concia, non c'è nessuna vendita di diritti, lei, ecco, sì, ma insomma, lei, diciamo, quell'editoriale, sapendo prima che non c'è stato mercimonio di diritti, lo riautorizzerebbe? Ma era quello il fuoco dell'editoriale. Comunque il fuoco dell'editoriale era il tema della campagna, che evidentemente, anche per le dichiarazioni di ripeto del vicepresidente del PD, era sottostante a quell'evento, l'intenzione di creare un caso anche a partire da quell'atto. Questo è un dato di fatto, cioè, che non è neanche un mistero. Cioè, secondo lei c'è una campagna che comprende anche, per esempio, cose come questo matrimonio, che rientrano in una campagna, in una pressione che c'è da parte di una parte dell'opinione. Questa è una pressione oggettiva, sì, che c'è anche sull'Italia, sì, no? Come è avvenuto in altri paesi, nella stessa Germania ha portato a questo risultato da non molto tempo. C'è una pressione progressiva per introdurre anche quello che viene definito il matrimonio gay. Io sono di quelli, non sono unico naturalmente né in Italia né nel mondo, che crede che il matrimonio si sia consolidato come istituto a partire da un dato di realtà e di verità, che è un dato di natura, cioè il fatto che c'è una cellula fondamentale nella società che è composta da un uomo e da una donna che è naturalmente fertile, orientata al futuro. Questo non l'abbiamo inventato noi, questo è nella realtà. Senta, ma altri tipi è di chiara la sua posizione, stato, sì. Questo però per me è importante dirlo. Questo tipo di relazione è stato normato e tutelato dalla legge perché è fondamentale per la qualità di una società, perché consente a una società di avere futuro, perché è la base di quella rete di cellule fondamentali che costituiscono la rete di solidarietà fondamentale, aperta alla vita. Questo è il dato importante. Altre forme, non è che viene tutelato e registrato il matrimonio come atto d'amore. I sentimenti delle persone, lo Stato non deve legiferare, non può legiferare, dico io, sui sentimenti delle persone, nessuno va a giudicare questo. Sì, ma non credo che sia l'interesse di chi vuole il matrimonio tra omosessuali, non è quello di entrare nei sentimenti, ma nel piano dei diritti. Allora, il matrimonio omosessuali è dire, sì, aprire all'adozione dei bambini, alle coppie conformate da due persone dello stesso sesso. Io sono fra quelli. Vabbè, ci possono essere delle sfumature su questo. Però una domanda le volevo fare. È una questione seria questa, eh. Sì, no, ma dico, quella dell'adozione potrebbe essere una cosa. La relazionalità, sì, precisa, questo lo dicono. Dice la scienza medica e psicologica. Sì, dicevo, il tema dell'adozione non è centrale rispetto al discorso del matrimonio, perché potrebbe essere un appendice. Marito e moglie, sì, diciamo così per intenderci, usiamo, sì, il linguaggio del matrimonio tradizionale. è evidente che c'è anche la possibilità Ora io non so negli altri paesi dove è possibile certificare l'unione, se questo corrisponda poi automaticamente anche al rendere possibile l'adozione. Però un'altra domanda le volevo fare, dato che la Paola Concia è andata a sposarsi in Germania, non sono pochi paesi in Europa nei quali è possibile farlo. L'Italia potrebbe rimanere l'unico paese dove non è possibile, e questo nell'Unione Europea secondo lei porrebbe qualche problema o no? Ma no, l'Unione Europea è una struttura che è in via di perfezionamento, ma ha un principio chiave su alcuni punti fondamentali, che è il famoso principio di sussidiarietà, che a molti sembra una parolaccia, è quella dove l'Unione si ferma con le sue normative laddove gli Stati possono intervenire efficacemente. Fra l'altro le materie che riguardano la gestione dell'anagrafe, riguardano la disciplina matrimoniale, sono discipline che sono demandate ai singoli Stati. Ed è bene che sia così, credo che sia giusto che si tenga conto anche delle specificità nazionali. Quindi è chiaro che c'è una pressione, ho capito, però il senso della sua domanda è se la pressione culturale. Io credo che in Italia abbiamo un'altra strada, l'ho scritto già negli anni scorsi a più riprese, c'è un'altra strada da battere per affrontare anche il problema delle unioni tra persone dello stesso sesso. Il codice civile offre delle possibilità reali, un conto è il matrimonium, un conto è il patrimonium e un conto sono appunto relazioni che non sono aperte naturalmente alla generatività, cioè quelle tra persone dello stesso sesso, perché penso che chiunque può comprendere che mettere al mondo un figlio è cosa diversa da programmare il laboratorio, certo, attraverso, certo, un utero in affitto. Sono qualitativamente diverse le cose. Quindi credo che in Italia si possa battere, secondo quella che è la nostra civiltà giuridica, sì, la nostra cultura, un'altra strada seriamente. Purtroppo fino adesso non lo si è fatto, in passato si è tentato di costruire degli strumenti, penso ai DICO, altre cose che erano dei simili matrimonio, dei matrimoni in serie B, che alla fine secondo invece potrebbero detto, esserci gli strumenti più soft, e su quelli potrebbe esserci anche una convergenza forse. Qualche, sì, anno fa io, sì, nel nostro piccolo suo avvenire, io allora ero vice direttore di questo giornale, abbiamo dato un contributo forte anche su questo, magari poco percepito da tanti perché si guardava più aspetto. C'era più clamore su altre cose. Benissimo, io la saluto qua, la ringrazio, grazie Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. 19.33, siamo un po' in ritardo, borsa, poi torniamo tra un attimo, 800 24 00 24. 19.37, cari ascoltatori, ben ritrovati. Allora, andiamo con i vostri interventi. Andiamo con ordine. Francesco da Catania, buonasera. Francesco, ci sente? Non ci sente. Marco da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Dunque, volevo fare soltanto una piccola osservazione. Per esempio, in Italia sono 5 milioni circa di persone che detengono il 40% dei beni, diciamo. Come mai le tasse devono essere pagate per il 98% dall'altra parte, cioè dall'altra quota? Siccome la Costituzione prevede che ognuno debba contribuire per il fisco, per le tasse, in proporzione alle proprie possibilità. Quindi questi signori dovrebbero pagare il 40% della manovra finanziaria, del debito, dovrebbe essere a carico di questi. Ma questa situazione non si schioda, ma anche gli Stati Uniti hanno lo stesso problema. C'è questa crisi, in questa crisi c'è gente che ha lucrato, che ha guadagnato, è il momento che mette mano al portafoglio e paga lei. Sia in America che in Italia la situazione è la stessa. Questa gente non vuole tirare fuori una lira. Insomma, la progressività delle tasse c'è in Italia, questo sicuro. No, dico la progressività dell'imposizione fiscale in parte esiste. La progressività esiste. Si ferma a un certo punto, oltre quello non va. Però dico, cioè lei la vorrebbe più spinta la progressività delle tasse? La vorrei non più spinta, ma soprattutto in queste situazioni di emergenza, sì, la contribuzione a queste manovre finanziarie dovrebbe essere ripartita in questa maniera, cioè non ripartita come al solito. Cioè non spalmata su tutti, perché chi ha meno ha più difficoltà a dare il suo contributo. Grazie. Cioè, mi sembra, sì, 100.000 euro a uno che ne guadagna, sì, 600.000 gli fa un piccolo danno. Ma se lei leva 100 euro, sì, a uno che ne prende 800 lo mette a terra, ma poi non c'è materialmente spazio per tassare oramai il ceto medio. Va bene, va bene, grazie. È un po' difficile avventurarsi su queste argomentazioni perché bisognerebbe avere cifre alla mano. Lei ha detto il 5% ritiene, il 40%, io non so, però insomma è un'opinione, e poi ci sono anche le cifre. E va bene, Abdul da Bologna, buonasera. Sì, pronto? Prego. Buonasera signor Maurizio, prima di tutto chiedo scusa perché il mio italiano è pessimo, sono del Senegal. Complimenti, lei è bravissimo. Grazie, siamo contenti di lei. Sì. Io volevo chiedere questo sui parlamentari, ma perché non si potevano, non potevano essere pagati in base alle loro presenze al Parlamento, come dicevo Calderoni? Sì. Cioè, nel senso che, è una delle proposte che ci sono tra le tante, sì, sì, no, sì. Voglio dire, perché secondo me il problema non è solo il loro stipendi, ma il vero problema secondo me è che questi signori, molti di questi signori non vanno neanche a lavorare. Sì. Lei lunedì scorso se non mi sbaglio ha intervistato un eurodeputato, no? Che diceva Ciriaco De Mita dell'UDC, sì, ecco, sì. Dava come giustificazione che per andare a Strasburgo non c'è volo diretto. Doveva fare il giro da Parigi e questo, ecco, per lui era un problema. Voglio dire, sì. Ma anche si deve passare in Africa per andare a Strasburgo, ci deve andare lo stesso. Sì. Se lo pagano per questo, no? Sì. Poi cioè, sì. C'è un altro deputato che ha battuto, secondo me, tutto il record, perché il suo collega Cruciani, da giorni che lo stava cercando per parlare con lui, lui ho sentito che... Se non sì, mi il sbaglio, super assenteista medico-chirurgo del PD, sì. Ecco. Sì, sì. Quindi lui quasi non ci va mai al Parlamento, anzi va pure a fare un altro lavoro, un lavoro privato, non so, fa il medico credo, cioè, ma è una cosa allucinante, cioè, questi qua prendono lo stipendio ma non vanno a lavorare, perché secondo me anche se prendono 20.000 euro, però vanno a lavorare, magari va bene lo stesso, però vabbè, dovrebbe essere uno dei criteri sicuramente da tenere in considerazione, la frequenza, l'assiduità, insomma la frequenza anche del numero delle sedute, visto che loro lavorano a sedute, ma naturalmente non basta neanche quello. Si possono pensare dei modi per parametrare gli stipendi a questo, e mi pare che una di queste proposte ci sia all'interno della bozza Calderoli a cui Abdul faceva riferimento. Chi abbiamo? Francesco da Catania? Sì, non è che l'abbiamo già sentito. No, buonasera, prego. Sì, buonasera. Quindi dico, io ho ascoltato l'intervento di Abdul, che devo dire secondo me è una persona intelligentissima e parla anche bene italiano, più dei nostri politici. Dico, a volte in Italia si sta ad ascoltare problemi che secondo me non sussistono, perché recuperare o risolvere i problemi dell'Italia diminuendo lo stipendio dei nostri politici, se facciamo due calcoli, quanti sono e quanti guadagnano, io non penso che sia veramente la soluzione al nostro problema. Io direi un'altra, io la vedo così da cittadino, da stipendiato. È giusto che loro facciano questa attività, se hanno voglia di farla questa attività, o se la indettano come lavoro, perché poi in effetti così è, e deve essere veramente retribuita bene. Invece di 5, 6, 7 mila euro al mese, gliene darei anche 20, però dovrebbero fare come un normale operaio che va a Torino a lavorare alla Fiat e si trasferisce a Torino per X anni, fin quando viene licenziato, si prende la casa in noleggio, può risparmiare e prendere la metropolitana. Questo è un vero modo onesto da parte dei nostri politici, dimostrare alla gente che veramente fanno il loro lavoro per cui sono stati eletti. C'è un problema con la linea? Va bene, grazie. Comunque mi sembra che il concetto che aveva a cuore Francesco è stato espresso. Marcello da Roma, buonasera. Buonasera e complimenti per la trasmissione, e faccio i complimenti a lei perché almeno si riesce a parlare di concetti concreti, di cose concrete. Ascolti, io chiamo a proposito del discorso degli italiani non vogliono fare i lavori umili, che ogni tanto si tira fuori. Sì, Diego Batantuono l'ha detto, l'abbiamo riportato. Sì, sì, sì. Sì, io non sono d'accordo, nel senso, il problema non è il lavoro, il problema è come uno viene trattato sul lavoro, lo stipendio e il resto. Cioè, se uno fa l'impiegato, bene o male, ha la speranza di arrivare a prendere quelli, diciamo, 1.300, 1.400, un tredicesimo, quattordicesimo. Sì, sì, è vero, voglio fare una precisazione però, perché penso di interpretare e poi la faccio proseguire, una parte di quello che voleva dire a Diego Batantuono. Cioè lui dice, nella nostra tradizione c'è stata una voglia di migliorare le condizioni da padre in figlio, in modo che il figlio non debba fare lavori che magari ha fatto il padre precedentemente, e lui citava lavori umili. Questo è vero, c'è stata questa ambizione, questa aspirazione, però di fatto poi se questo deve portare a, come dire, a far sì che tutti, come si dice spesso, studiano tutti scienza della comunicazione, nessuno ingegneria, o addirittura anche lavori più umili, nessuno li vuole più fare, sicuramente questo pone un problema alla nostra struttura del mercato del lavoro, chiamatela come vi pare, occupazionale in Italia. Poi naturalmente quello che dice lei è una questione anche di moneta, cioè se mi pagano bene faccio anche il lavoro umile, però sono due discorsi diversi. Prego, Marcello. Sì. Dico, la società va avanti, vogliamo che il paese cresca e chiaramente la Germania sta crescendo, l'Italia no, perché la Germania fa innovazione. Se facciamo tutti i fruttaroli o gli spazzini il paese non cresce. Allora va bene che questi lavori vengano fatti, ma se devono essere fatti vengono retribuiti almeno per poter mantenere una famiglia, perché sennò la gente giustamente prova ad aspirare ad altro, che è, mi sembra, l'esigenza normale di ogni individuo. Se uno deve lavorare, farci un mazzo così, mi perdoni l'espressione, dalla mattina alla sera nei campi per 700 euro, ma chi lo fa fare? Poi certo ci sarà uno su mille che diventa imprenditore agricolo e farà la fortuna, ma gli altri 999 prendono una miseria. Grazie. L'immigrato, mi permette di finire, l'immigrato lo fa semplicemente, e questo lo sappiamo tutti, perché la maggior parte, se non tutto, del suo reddito viene corrisposto a nero, e aggiungo il problema dell'immigrazione proprio che loro poi si trovano a usare i nostri servizi per gran parte non pagandoli. E anzi poi vediamo le file negli asili eccetera togliendoli a noi, perché poi questo succede. Va bene, questo aprirebbe altri scenari. Grazie comunque Marcello. Salutiamo il prossimo ospite, che è un po' il leader in questo momento di tutti voi ascoltatori, per esempio, che state chiamando numerosi, anticasta, e di tutto questo movimento contro gli sprechi della politica, Gaetano Ferrieri. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Lei è in sciopero della fame esattamente da 66 giorni davanti a Montecitorio, è così? Sì, esatto, da 66 giorni, da 4 giugno io sono qui in piazza Montecitorio con presidio permanente proprio per i costi della politica. Ecco, siccome spesso di fronte agli scioperi della fame poi la gente è scettica, dice sì ma figuriamoci, io ho letto da qualche parte, ho visto anche delle foto, ma non so com'era lei prima, che lei ha perso un sacco di chili, quanti? Io ho perso quasi, forse più di 22 kg, attualmente sono 22 kg, diciamo, pesavo 89, adesso sono 67 kg. Quindi il suo è uno sciopero della fame vero a tutti gli effetti, ha perso 22 kg, signor Ferrieri. Sì, io ho perso 22 kg, da qui proprio non mi muovo mai, e quindi sono seguito qui in piazza Montecitorio, ci sono le telecamere, posso dimostrare che io sono qui notte e giorno, dormo in macchina. Lei quindi vuol togliere lo scettro del più grande scioperatore della fame a Marco Pannella, glielo vuol contendere. Ma non è che voglio contendere lo scettro, è che mio zio è stato ad Auschwitz, lui dopo due anni è tornato che pesava lui 36 kg da 95 kg che pesava. Il mio sciopero della fame è dovuto praticamente a un ideale, a risvegliare la coscienza degli italiani, quindi questo non comporta il fatto di aver bisogno, e la ragione, il corpo si sta praticamente asciugando, si sta asciugando la muscolatura, però lei che fa, per beve. L'ideale si continua. Lei cosa fa? Beve soprattutto? Io bevo e prendo gli integratori, che una volta non c'erano, adesso ci sono gli integratori a base di vari, c'è ferro, c'è zolfo, c'è zinco, c'è tutto, in modo che la ragione possa resistere, insomma, capito? Senta, lei è un ex, se non ho letto male la sua biografia, adesso ce la racconti un po' lei, chi si presenti, come si dice, lei cos'è, un ex sindacalista, un ex esponente anche dell'Italia dei Valori, la sua occupazione normalmente qual è? Allora, vi spiego, io sono praticamente mi sono sempre battuto per il sociale. Io sono da Venezia, sono venuto qui a Roma, sono stato presidente nazionale di associazioni di categoria nella costituzione operativa di centri lavoratori andati, cioè dopodiché negli anni 92-94 ho fatto sviluppare, sono un tecnico diciamo, ho fatto sviluppare l'operatività di centri assistenza fiscale per la certificazione dei modelli 730 e unico, e quindi in 14 anni ho girato l'Italia per lungo. Ma questo lei lo faceva lo faceva per i patronati, per i sindacati o per l'Agenzia delle Entrate? Ma io ero pagato dall'associazione di categoria, il lavoro veniva fatto perché i capi dipendenti, i capi imprese vengono autorizzati dall'Agenzia delle Entrate tramite ma non volevo entrare, era solo per inquadrarla, insomma. Lei adesso è davanti a Montecitorio ancora? Sì, sì, io sono in piazza Montecitorio dove c'è l'obelisco. E cosa c'è? Il deserto di fronte a lei, perché è chiuso il Parlamento, no, adesso? No, il Parlamento... C'è qualche movimento? Adesso è chiuso, ma lei sa che da giovedì il Parlamento viene aperto tutti i giorni, anche se la, diciamo, i deputati sono andati in ferie, ma lei sa che anche giovedì verranno riaperti, verrà riaperto il Parlamento, cioè il Parlamento viene aperto tutti i giorni, come accennavo, ma ci sarà la presenza della Commissione Affari Costituzionali e la presenza della Commissione del Bilancio, diciamo. Lei perché esattamente protesta? Non è una protesta, perché praticamente io avevo iniziato, come accennavo, il 4 giugno con alcuni cittadini conosciuti via internet per presentare, in virtù dell'articolo 50 della Costituzione italiana, i nostri diritti, diciamo, tre petizioni. Una petizione per il taglio del costo della politica per circa 70 miliardi di euro, si va dall'eliminazione dell'auto blu all'eliminazione, diciamo, delle consulenze e dal taglio minimo del 50% di tutti i parlamentari, dei parlamentari nazionali agli enti locali. Inoltre abbiamo eliminato una riduzione dei costi, diciamo, delle società di capitale sia degli enti locali che dello Stato, cioè circa 70 miliardi di euro, questo è. La seconda petizione era quella relativa alla nuova legge elettorale e la costituzione di un comitato nazionale di cittadini per scrivere le riforme. Il terzo petizione era quella delle dimissioni delle Camere. Senta, ma lei si sente parte, sa che si parla degli indignati, indignados in Spagna, in altri paesi ci sono manifestazioni, lei si sente però un po' isolato in Italia, perché non ci sono gli indignati in Italia. Ma il problema non è, allora, indignato vuol dire, cioè indignato, noi non vogliamo seguire una politica, chiamiamola rivoluzionaria, della Spagna o della Grecia o di altri paesi, cioè in Italia c'è un altro tipo di mentalità. Come accennavo, io lo sciopero della fame l'avevo fatto per comunicare con l'istituzione pubblica, quindi col Parlamento, non essendo ascoltato dal Parlamento. In virtù di questo io ho girato lo sciopero della fame, l'ho continuato perché mi è stato chiesto dal Parlamento di portare 3 milioni di persone in piazza, e mi è stato chiesto dal dottor Alberto Solia, capo di gabinetto del Presidente della Camera, Gianfranco Fini, mi è stato detto che il Parlamento non può dialogare con me perché non rappresentiamo un partito. La Costituzione, quindi lui ha detto che deve portare prima 3 milioni di persone in piazza. Esatto, per dialogare col Parlamento. Ma lei ce la fa a portare 3 milioni? Sono un po' tante. Ma 3 certo, milioni. Io faccio parte di un territorio dove noi siamo contadini, io non ho nel DNA l'operatività, noi seminiamo e pian piano... Da dove viene lei esattamente? Dal Veneto. Da Venezia. Senta, ma sono 66 giorni che lì avrà visto passare di tutto, cioè, di tutto nel senso non negativamente, ma di tutti i politici che entrano alla Camera, qualcuno si sarà interessato al suo caso? Assolutamente no, perché circa per 25-30 giorni sono passati i politici tutti sanno, compreso i sindacati, che io sono qui presente, perché sanno delle petizioni che ho presentato, però nessuno... Non si è avvicinato chiesto, nessuno, non è possibile. Nessuno ha chiesto direttamente come sto, almeno a livello umanitario, ignorato completamente. Quando ho visto che questo, noi siamo cittadini, siamo ignorati completamente dal mondo politico, abbiamo avuto la richiesta ufficiale di portare 3 milioni di persone, io ho dialogato via internet e ho ormai 8-9 milioni di persone che visitano il nostro sito, e in virtù di questo sto portando a risvegliare la coscienza degli italiani, non essere indignati, non essere rassegnati, ma ricordarsi che sono dei cittadini, che c'è una bandiera italiana da pulire. In virtù di questo gli ho chiesto di venire qui in piazza Montecitorio, se non voglio né fare partiti né niente. Sì, non ha nessun politico di riferimento, qualcuno che sente più vicino? Sono le battaglie che fa Grillo, che fa Di Pietro, per esempio, queste? Assolutamente no, io no. Come lei accennava prima, io sono stato fondatore nel 94 dell'Italia dei Valori a San Sepolcro, dopo 3 mesi l'ho lasciato perché Di Pietro non ha dato riscontro a quella che era la vera politica, l'etica e morale. In virtù di questo l'abbiamo lasciato, in virtù di questo io non mi sono associato mai a nessun sindacato, né conosco, perché in effetti sono stato rappresentante, come accennavo, di associazioni di categoria, e sono stato buttato giù da rappresentante di associazioni di categoria perché ho trovato 12 miliardi e mezzo di euro nel mondo sportivo di falsa fatturazione. In virtù di questo me l'hanno fatta pagare e mi hanno eliminato, ma da cittadino semplice non mi riconosco più in questa logica di partiti, perché sono lontani da quello che è la popolazione, perché la popolazione, il cittadino, sta pagando un enorme debito pubblico come classe sociale più debole, sta pagando e non riesce più a sopravvivere, non c'è più un investimento sulla famiglia, non c'è l'investimento sulle coppie, non c'è più nulla sul lavoro. L'Italia è stata distrutta negli ultimi 25 anni proprio proprio dal sistema organizzativo politico che va dai partiti ai rappresentanti amministratori e va fino al mondo sindacale. Senta, ma la sento molto energico, ma chi c'è lì che la segue? Si è creato un gruppo, lei ha detto, dei milioni di persone, dice lei, che la seguono su internet, ma c'è anche qualcuno lì con lei? Fisicamente, sì, io ho sempre quelle 4-5 persone, perché un conto è che io faccio lo sciopero della fame e quindi come persona a norma civile posso farlo e quindi posso essere autorizzato, non c'è problema. Non posso far presente che qui ci siano 50-100 persone e diventa un problema di ordine pubblico. Quindi io ho sempre quelle 4-5 persone che mi assistono, sono invece parecchi cittadini che vengono in continuazione, ogni tanto mi viene autorizzata la manifestazione, allora mi vengono 3-4-500, come ieri sono venuti 400-500 giovani. E lei quello che vi dico è che i giovani stanno veramente correndo l'appello che io mando. Ma il suo obiettivo a questo punto qual è? Qual è l'obiettivo che vuole raggiungere? L'obiettivo è di raggiungere... Cioè lei andrà avanti fino a quando? E io vado alla sua stanza, come accennavo, mio zio è tornato da Auschwitz dopo 2 anni, lei sa che Auschwitz non si mangiava e quindi pesava 36 kg, quindi presumo che io non muoio nell'arco, credendo in un ideale e credendo la ragione riesce a governare il corpo, io credo che posso andare a oltranza, non credo che i 70, 80, 90 giorni, 100 giorni possano far differenza. Cioè lei vuole superare agosto? Vuole milioni di persone qui. Vuole portare milioni di persone davanti al Parlamento? E certo. Senta, ma sono tanti però, cioè, nel senso... lo so, ma però la coscienza italiana è svegliata, perché abbiamo la politica che ormai ha fatto un muro di coscienza nei confronti degli italiani, non c'è etica, non c'è morale, non hanno tagliato quella spesa politica che doveva essere tagliata. Si parla demagogicamente di tagli alla spesa politica, però non vengono effettuati, con l'ultima finanziaria. E poi un'altra cosa le dico, non è stata fatta una strutturazione del debito pubblico, cioè qualsiasi padre di famiglia, qualsiasi imprenditore fa una strutturazione del debito dell'azienda o della propria famiglia, lo Stato non l'ha fatta, il mondo politico non l'ha fatta. Senta, ma ho letto in un'intervista che lei ha addirittura un retroscena relativamente a Spider Truman, cioè questo fantomatico ex portaborsa del Parlamento che ha messo su Facebook tutti gli sprechi dei parlamentari che riguardano i parlamentari, e lei dice che è una macchinazione. Ma Spider Truman ha avuto una eco, diciamo, da parte di mass media, che è stato non più che una macchinazione, un'operazione politica per portare la demagogia all'interesse dei costi della politica e dei privilegi, per deviare. Ma perché, scusi, perché lui li denunciava i costi della politica, non... Ma io ho fatto una serie di video e ho superato quello che lui ha effettuato. Questo non si parla di fare una gara di chi fa di più e di fa di meno, è che l'operazione mediatica è stata troppo veloce rispetto alla visione di video di quello che lui ha fatto, e in virtù di questo le dico che è un'operazione demagogica creata proprio infatti per creare un governo tecnico e parlare tramite i media nazionali di costi della politica. Questa è l'operazione, perché non è che ci dormiamo tanto su queste cose, capito? Quindi Spider Truman è un'operazione fatta appositamente. Insomma, siete un po' in concorrenza via con Spider Truman, ma non sarebbe stato meglio mettersi insieme invece? Ma se l'uomo si vede, siamo qua. Senta, ma lei, per dire, stasera, stanotte, dove va? E io dormo qui, davanti al Parlamento, ho la macchina e dormo in macchina. Io sono 24 ore su 24 qui. Ma lei quanti anni ha? Io ho 54 anni, sono padre di famiglia. Questa cosa io la faccio appositamente per il futuro dei nostri figli. E i suoi figli li ha sentiti? Certo, io li sento ogni tanto. Sono laureati, una è laureata, sono due figli, una è laureata, una è diplomata, appena diplomata, e non hanno un futuro, perché io ho conosciuto anche ragazzi... Tifano per lei? Ti prego? Tifano per lei? I ragazzi giovani credono in me. Grazie Gaetano, grazie. Ferrieri, buona serata. Grazie, saluti a tutti voi, grazie, buonasera. E coraggio. 824-0024, a tra poco. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati, i titoli del TG1. Borse, altra caduta, crollano Francoforte e Parigi, meglio Milano che perde meno, giù Wall Street e Obama dice i nostri crediti sono sicuri. Bossi vede Tremonti, bene BCE, ora riforme, opposizione, il governo spieghi, Alfano al TG1, scelte giuste, ora responsabilità. Omicidio Melania, nuovo vertice tra gli inquirenti, al vaglio i tabulati telefonici, all'esame anche i segni dell'assassino sul corpo, forse per depistare le indagini. Londra, la protesta si estende, nella notte incendi e saccheggi in altri quartieri, 200 arresti, 35 agenti feriti, incidenti anche nel pomeriggio. Non ho paura di nessun declino, così Vasco Rossi su Facebook si intitolerà I Soliti, la sua nuova canzone. Dal ritiro di Coverciano il CT Prandelli parla dello sciopero minacciato dai calciatori e dice troveranno l'accordo. Preoccupato invece da Calciopoli, è una ferita ancora aperta, il clima è pericoloso, ci vuole buon senso per trovare una soluzione. Riprendiamo con i vostri interventi e andiamo a Franco che ci chiama da Venezia. Buonasera. Buonasera, mi chiamo da Venezia, la ringrazio. Volevo intervenire su due o tre punti comunque in maniera spero velocissima. Sì. Innanzitutto ho sentito poco fa l'intervento del suo ospite, se non ero il vice direttore di Avvenire. Il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Sì. Ecco, non ho sinceramente capito, non sono sicuro di aver capito la liaison che ha fatto tra il matrimonio e ciò che esiste in natura, la naturalità della cosa. Nel senso che... Lei è ironico? Penso che sia un po' ironico il suo commento, no? No, nel senso sì. Che mi consta che l'omosessualità esiste in natura e perciò sì. Ogni altra considerazione legata al matrimonio tra due persone necessariamente di un altro sesso appartiene più a dettami di una qualche fede o religione cattolica piuttosto che cristiana, appartengo alla venezianità più estrema. E volevo pregare il signor Bitonci di non dire noi veneti, perché sarebbe più corretto nel suo caso dire noi leghisti, perché non tutti i veneti si riconoscono nei principi leghisti. Anzi, come veneziano penso di poter affermare con assoluta certezza che Venezia è sempre stato per più di mille anni un faro di tolleranza. E perciò esattamente il contrario dei principi leghisti, secondo me. E mi permetto di ribadire ancora che la mia famiglia ha infiggere le palafitte di Venezia. E perciò sentire una persona che in nome di quei principi parla a nome di noi veneti, dissento fortemente. E un'ultima precisazione, sono lievemente indignato, mi perdoni. Ma cosa faceva il signor Bitonci, l'onorevole Bitonci, all'età giusta invece che studiare un po' di storia? Mi spiego, lei stesso, quando l'onorevole Bitonci ha parlato del giro della Padania, lei stesso ha citato eventualmente altri esempi, cose simpatiche si potrebbero fare, giro dell'Etruria piuttosto che giro della Magna Grecia. Sono proposte, correttamente sì. Due realtà sì. Storiche esistite. La Padania non è mai esistita. E studiando la storia, anche a livello elementare, anche su testi esteri, nemmeno italiani e perciò soggetti a possibili revisionismi, la Padania è una congerie di popoli che non hanno perso un minuto ad ammazzarsi tra di loro, tra lodigiani e milanesi, veneziani e lombardi, liguri, lombardi e via discorrendo. Tanto varrebbe parlare di fare il giro di Popolinia e il giro di Paperopoli. Non esiste la Padania. Vabbè, grazie. Io non ho i titoli. Sì. 10 anni, non ho i titoli per difendere la Padania perché non sono nato in questa zona e non a caso avevo citato l'Etruria, che invece mi riguarda di più. Ma non voglio entrare in questo sul fatto se sia esistita o meno la Padania. Io avevo citato appunto altri due casi, quantomeno per scherzarci un po' su, perché cioè, se ne possono inventare, voglia te Bitonci, voglia te di giri ciclistici di questo tipo. Comunque, abbiamo i titoli? TG della 7. Una giornata sulle montagne russe con un epilogo nero. L'Europa brucia 198 miliardi di euro. La piazza peggiore è quella tedesca, sospinta a ribasso dal tonfo di Wall Street, a sua volta fondato dal giudizio di Standard & Poor's. Forti vendite per tutto il comparto industriale. In questo lunedì da incubo Milano sembrava ben posizionata, apertura timida, poi impennata fino a guadagnare oltre il 4,5% sull'onda dell'aiuto alla Banca Centrale Europea, ma infine è arrivata l'inversione di tendenza. Alla fine Piazza Affari ha chiuso con un meno 2,35%, tutto sommato meglio che altrove. ma evidentemente non basta la BCE, non basta forse l'annuncio di manovre, la politica in fibrillazione. C'è bisogno subito di un piano di riserva, visto che le misure anticrisi annunciate non sono evidentemente ancora bastate. Incontro tra il Premier e il Ministro dell'Economia a Tremonti per tirar fuori dal cilindro il piano B. Ma lo spettro che si aggira per il mondo intero e guarda gli Stati Uniti è un nome recessione. Barack Obama ha rinviato per ben due volte, dalle 7 alle 7 e mezza e poi fino a poco fa il suo discorso televisivo, che di cui adesso ovviamente vi daremo conto. Intanto la politica si prepara appunto a un rientro o a un prolungamento delle non ferie, bisognerebbe dire. Giovedì deputati a Roma per la riapertura delle commissioni parlamentari convocate per ascoltare Tremonti, annunciato il ritorno di tutti i big. Lunghe un anno le indagini sulla loggia Carboni, la cosiddetta P3, che avrebbe cercato di influire sul funzionamento di organi costituzionali. Adesso la Procura di Roma spinge verso il processo per Denis Verdini, coordinatore del PDL, Marcello Dell'Utri, senatore dello stesso partito. A Londra un'altra notte di violenze, saccheggi, incendi in tutta la periferia della città, da Tottenham ma anche alle altre zone, stavolta a mano pesante della polizia che opera oltre 125 arresti. E salutiamo il nostro prossimo ospite quando sono le 20:08, Renzo Olivieri, buonasera. Buonasera. Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Il tema è quello del mancato accordo per cui si ventila un possibile sciopero dei calciatori, che probabilmente non stanno né in cielo né in terra, per la questione del contratto di lavoro dei calciatori. Io dico la verità, non ci ho capito moltissimo. Adesso chiedo a lei proprio di intervenire su questo e di spiegarci anche un po', perché l'obiezione fin troppo facile che tutti si sono fatti è questa: ma come, con tutto quello che guadagnano i calciatori, ripeto, è un'obiezione fin troppo facile, forse fin anche stupida, però ci aiuti a capire, con tutto quello che guadagnano i milionari del pallone, ci mancava, ci voleva anche il contratto, Olivieri? Lei che è un esperto, un saggio del mondo del calcio, questa sì, è la premessa. L'accordo c'era già stato, poi la Lega su certe cose è tornata indietro e quindi la questione è ritornata in ballo. Bisogna precisare che non è un accordo salariale, per cui parlare di quello che guadagna un calciatore invece che un altro credo che sia sbagliato. Un accordo sulle regole, sul tipo di rapporto di lavoro, e quindi dire questo guadagna tanto però deve rinunciare a regole che sono questo, credo che sia sbagliato. Ripeto, non è salariale, non è per lo stipendio, e quindi mi sembra sì, sbagliato porla in questi termini, perché non è così, ecco, realmente. Però sono come... convinto, sì, di un'altra cosa, sono convinto di un'altra cosa, che sia i calciatori, sia anche gli allenatori, sia la Lega, sia la Federazione non vogliono questo sciopero e vogliono partire regolarmente con l'inizio regolare del campionato, per cui sono convinto che si partirà nei tempi regolari stabiliti. Ma e allora il motivo, diciamo, relativamente a questo contratto, che cos'è che preme tanto ai calciatori, ai Totti, ai Del Piero? Riguarda... E poi si citano spesso anche le categorie più inferiori, magari impropriamente, sì, perché sono mondi completamente diversi. Io dico anche per gli stipendi, però lasciamo perdere questo. No, ci spieghi l'aspetto? No, gli stipendi non c'entrano, sì, nulla. Lo stipendio non c'entra. Sì, sì, no, ma questo l'abbiamo chiarito. Però allora cosa c'entra? Cioè, qual è la... Ecco, riguarda soprattutto la posizione dei calciatori, quelli cosiddetti fuori rosa, no? Che sono a contratto, che avrebbero bisogno di lavorare insieme al resto della squadra, perché messi da una parte diventa un problema, ne hanno diritto, perché dal momento che la società gli fa il contratto hanno diritto ad allenarsi con il resto della squadra. È una questione che sembra di poca importanza, ma è di importanza fondamentale. Io credo che vada discusso la cosa. Credo che se venissero coinvolti anche gli allenatori su questa questione, credo che sarebbe più semplice trovare la soluzione però ripeto, la questione fondamentale a oggi è rimasta solo questa, sono rimasti pochi particolari da definire, ma particolari che erano stati definiti prima, e con gli uomini della Lega che erano al tavolo delle trattative, poi sono tornati e l'assemblea non ha approvato questo, è chiaro che è un tornare indietro, insomma i calciatori a questo punto mi sembra che abbiano anche ragione, ma ripeto, la questione credo che verrà risolta, anzi sono sicuro che verrà risolta. Lei non è stato, lei diceva sarebbe auspicabile coinvolgere l'allenatore, nessuno ha chiesto un intervento per fare una mediazione. Sì, ma anche perché è una questione che riguarda poi l'allenatore, la gestione di gruppi numerosi, quindi si è provato a cercare di coinvolgere l'allenatore nelle scelte, no? Dice l'allenatore è la parte tecnica che poi sceglie. Io dico la parte tecnica consiglia la società, poi le scelte riguardano la società, riguarda il datore di lavoro alla fine. Ecco, a questo proposito, perché da parte di alcuni presidenti di società anche oggi ci sono lette delle dichiarazioni e sentir poi dare così un po' come dicevo io in apertura, però da parte loro così facilmente dei milionari ai calciatori che loro stessi stipendiano tutto sommato, no? E fa un po', non so se fa ridere, tra l'altro poi i presidenti non è che se la passino loro malissimo per quanto le società sono indebitate, ma questo è un altro capitolo, cioè in questo dualismo, no? Cioè secondo lei oggi chi è che gestisce, tira le redini poi alla fine anche dal punto di vista economico qua della situazione, Olivieri? Sono i presidenti, la contrattazione è una contrattazione libera in libero mercato, quindi uno può approvare il libero mercato oppure può pensare che ci si possa organizzare anche in modo diverso. Io sono tra quelli che pensa che ci si possa organizzare anche in modo diverso, ma se le regole sono quelle del libero mercato è il presidente che si mette d'accordo col calciatore, e ci sono calciatori che guadagnano tantissimo, e secondo me, se andiamo a vedere, insomma, mi sembra spropositato confronto a un lavoratore normale, e ci sono calciatori che guadagnano cifre molto più ridotte. Certo, ma ecco, visto i giorni, le ore che stiamo vivendo dal punto di vista dell'economia del paese più in generale, dei problemi che ci sono stati in borsa, la manovra economica eccetera, premesso che il mondo del calcio è fatto di società private che fanno quello che vogliono, proprio il tema che toccava lei però, Olivieri, secondo lei si può pensare di fare un paragone e quindi pensare di fare anche un po' un passo indietro? In fondo molte società di Serie A sono ancora molto indebitate, e quindi anche le cifre che girano forse andrebbero ridimensionate, anche questa è una cosa che si è detta più volte, però forse è anche il momento, visto il contesto nel quale ci muoviamo, di affrontarlo questo argomento o no? Ma io credo che passo indietro sia anche abbastanza semplice, e qualche società lo ha già intrapreso, purtroppo nei campionati minori obbligati, sono scelte obbligate, ma io credo che anche nei campionati maggiori, ma applicando una regola semplicissima che riguarda l'economia familiare, se io vado al di là di quello che porto a casa e spendo di più, creo debiti. Ecco, io credo che nella gestione delle società di calcio si debba riprendere quella che è la gestione normale di una famiglia. Ma c'è bisogno di qualche regola in più, oppure è semplicemente una questione di applicazione e di controlli, non lo so, o anche solo di buon senso da parte di applicazione, di controlli, di buon senso, di guardarsi intorno anche. Va bene, grazie. Io la saluto. 20:15, Renzo Olivieri, grazie per essere stato con noi. Buona serata al presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Il tema, l'abbiamo detto, è questo, insomma, non c'entrano i soldi, dice Olivieri. No, non c'entrano gli stipendi, però l'obiezione scatta a tutti, insomma, il contratto di lavoro dei calciatori. Evidentemente è una questione, come abbiamo forse imparato a capire anche con questa intervista, che forse riguarda più le serie inferiori o i giocatori che guadagnano meno, che hanno magari maggiori problemi a inserirsi negli organici e a lavorare e quindi a portare a casa uno stipendio, che però, ripeto, nel caso delle serie professionistiche dovrebbe compensare tutto il resto. 824 0024, tra un attimo, prima il traffico. 20:17, ben ritrovati cari ascoltatori, andiamo con i vostri interventi per questo ultimo spicchio di trasmissione fino alle 20:30. Carlo chiama dalla provincia di Monza, buonasera. Sì, buonasera, io non sono riuscito a sentire tutto, ma quella cittadino che è davanti al Parlamento. Sì, Gaetano Ferrieri. Per la questione della casta. Sì. Ma è in pensione? Non ho capito perfettamente, anche perché dopo 66 giorni di sciopero della fame probabilmente non era lucidissimo neanche lui ed era molto, come si dice, molto adrenalinico anche e ha parlato moltissimo. Io gli ho chiesto che lavoro facesse, ma ha fatto un giro largo e non credo che l'abbia concluso. No, perché? Nel senso che vabbè, sì. Certamente a me umanamente dispiace, figuriamoci, sono vicino, però ho la sensazione che questa situazione della casta sia un po' in cercare un capro espiatorio. Perché il problema dei bilanci pubblici in Italia è dovuto, per esempio, alla questione delle nostre pensioni, che sono state date, soprattutto in passato, a persone che avevano 50 anni e che magari, Dio volendo, ce li teniamo per altri 40 anni. È dovuto a un sistema di ammortizzatori sociali che consente a centinaia di migliaia di persone di essere in cassa integrazione, magari di avere un lavoretto in nero. È dovuto all'evasione fiscale molto forte, è dovuto a una serie di problemi che non sono solo legate ai quei 900 deputati, senatori che magari hanno qualche privilegio di troppo e che capisco che dal punto di vista simbolico possano essere questioni, come dire, rilevanti, ma dal punto di vista economico il problema dell'Italia secondo me è un altro. Non c'è dubbio, Carlo, l'unica cosa è che, almeno io personalmente la vedo così, e è vero che in termini economici e quantitativi sicuramente il tema delle pensioni o altri capitoli della spesa pubblica sono infinitamente più ampi di quello dello stipendio dei politici, però prima di tutto quello è un capitolo da non sottovalutare e poi quello che tutti dicono molto più autorevolmente di me, proprio nel momento nel quale o comunque tutte le volte che si chiedono sacrifici agli italiani, gli italiani si aspettano che chi glieli chiede dia il buon esempio. È questo il punto, il circuito virtuoso che dovrebbe crearsi, altrimenti se ragioniamo come dice lei andiamo, c'è sempre un motivo per non fare una cosa perché ce n'è un'altra che viene prima. No, ma non è quello, è la sensazione che sia sempre colpa degli altri per gli italiani. Diamo sempre, non cominciamo mai da noi. Nessuna parte sociale inizia mai dicendo noi facciamo questo. Si dice sempre gli altri devono fare. Guardi, un esempio proprio semplicissimo. Ci si lamenta perché i deputati e i senatori vanno in ferie, stanno via tanto tempo in agosto. Addirittura ci si indigna per un pellegrinaggio, secondo me il pellegrinaggio gli fa bene, facessero anche un po' di volontariato gli farebbe ancora meglio, però poi in Italia, differentemente dagli altri paesi, provi lei a fare un ordine a un'azienda in questo periodo, provi lei a contattare un ente pubblico, tutti diranno no, siamo in ferie, se ne riparla a settembre. È un sistema che riguarda tutti noi, non soltanto loro. Però mi scusi, tra fare le ferie e stare via 40 giorni, compreso il pellegrinaggio in Terra Santa, c'è una bella differenza, cioè se ci sono delle aziende che chiudono per 2 settimane, ora io non so lei a cosa si riferisce, però io parlo di esercizi commerciali, 2-3 settimane di ferie all'anno le fanno tutti e questo credo che non lo metta in discussione. Guardi, provi lei, deve fare un trasloco, provi lei a organizzare un trasloco in agosto, provi lei a farle venire a casa a fare dei lavori in agosto, se ci riesce. L'Italia, guardi, negli Stati Uniti, sì, però mi scusi, non mi convince, mi scusi, poi la faccio finire, non mi convince perché se il Parlamento al netto della riunione delle commissioni che ci sarà perché c'è una situazione straordinaria settimana questa, chiude il 4 agosto e riapre il 12 settembre, questi sono 38 giorni, c'è un problema, mi scusi, perché nessuna azienda fa 38 giorni di chiusura, questo me lo concederà. Ma certo, e le scuole invece? Vabbè, ma le scuole non sono chiamate a, come dire, a una produttività di questo tipo. Quello che mi sembra che le scuole c'entrino. Non possiamo invocare gli altri paesi, perché negli altri paesi i parlamenti lavorano, a parte il fatto che poi non è vero, perché anche in Inghilterra, sono appena stato a Londra, siamo andati a visitare il Parlamento, idea bellissima, perché lì si fa la visita, si vede tutto, perché? Perché per un mese e mezzo il Parlamento a Londra non c'è, non funziona. Quindi nessuno si indigna però, anche perché se lavorassero bene, detto tra noi, chi se ne frega se fanno da 6 al 4 di agosto al 12 di settembre. Sì, ma il problema è proprio questo, che non dobbiamo prendere le cose peggiori dagli altri paesi, quelle migliori, mi scusi, altrimenti non la finiamo più. Grazie, comunque Carlo, ha detto quello che voleva dire. Matteo dalla provincia di Milano, buonasera, prego. Buonasera, buonasera a voi. Io volevo fare un piccolo intervento per avallare quello che ha detto Papantuono circa il fatto che gli stranieri fanno il lavoro che gli italiani non vogliono fare più. Perché sembra un po' un discorso qualunquista, invece io posso dire che è assolutamente vero, in quanto mia moglie lavora nella cucina di un ristorante che è da parte di una catena, e è un lavoro duro, perché gli orari sono pesanti, il lavoro è fisicamente impegnativo, e da lei sono tutti stranieri. Cioè, il suo capo è un moldavo, le sue colleghe sono rumene, filippine, peruviane, ecuadoriane, quindi... Cioè, non è proprio un discorso, diciamo, vetro comunista di dire ah no, vengano gli immigrati per fare i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Purtroppo è così. E poi, se mi permette, volevo fare un'altra cosa, giusto divagando, riguardo la polemica che ha suscitato il matrimonio dell'onorevole Concia con la sua compagna. Sì. Il senatore Giovanardi, che è sottosegretario alla famiglia, si è inalberato perché questo matrimonio omosessuale contro la Costituzione, l'articolo 29, bla bla bla bla bla. Io vorrei sapere però, infatti gli ho anche scritto al senatore Carlo Giovanardi, ma si vede che non ha trovato il tempo di rispondermi perché doveva... In vacanza forse, no scherzo. Sì. Come? No, dico in vacanza, ma scherzo, perché poi magari ci querela. No, io gli ho scritto in tempi non sospetti, gli ho scritto a maggio, ma si vede che all'epoca era troppo impegnato a polemizzare contro i mobilifici, perché sono uscite le graduatorie degli asili nido nella mia città e mio figlio, come altri 75 bambini, per carità, è rimasto fuori. Allora sono andato sul sito del sottosegretariato alle politiche per la famiglia, c'è scritto che proprio nel programma di governo era messo che avrebbero incrementato il numero degli asili nido in modo da fare tanti posti quanti erano, il 30% della fascia di età 0-3 anni avrebbe avuto un posto in asilo nido. E invece è rimasto fuori. Sì. Nella mia città il numero degli asili nido non è cambiato da anni, quindi insomma vorrei sapere proprio concretamente che cosa voleva fare il sottosegretariato alle politiche per la famiglia. Cioè lei dice invece di occuparsi del matrimonio di Paola Concia si preoccupi dei nostri asili nido, questo il sottosegretario alla famiglia, mi sembra... Chiaro, ci stanno tutti gli argomenti, però ci sta sicuramente anche il suo di appello. Grazie. Gianni da Parma, buonasera. Buonasera, guardi, prego. Io sono d'accordissimo col suo punto di vista, quello di prendere il bene dagli altri paesi e non importare il male, anche perché di male noi ne abbiamo già abbastanza da soli. Mi riferisco soprattutto a un argomento di cui si parla solo in campagna elettorale. La lotta benedetta all'evasione fiscale. Io sarei un fannullone del pubblico impiego, quindi tartassato di tasse, e per rispondere all'ascoltatore di prima che tutti vanno in ferie, io sono rientrato dalle ferie, adesso lavorerò anche a Ferragosto perché lavoro in ospedale, quindi non è vero che tutti quanti adesso chiudiamo baracche e burattini. Se il signore malauguratamente si dovesse sentire male, ma chiunque ha bisogno del pronto soccorso o di servizi dell'ospedale, l'ospedale è sempre aperto. Questo è un esempio dei tanti, quindi tanta gente lavora seriamente, paga le tasse pure troppe eccetera, stipendi bloccati anche a fronte di grandi sacrifici. Quello che mi scoccia veramente è che di questa lotta all'evasione, di cui i dati che ho letto in un libro di qualche anno fa era di 100-200 miliardi annui, questi servirebbero a fare il fabbisogno dello Stato italiano, a risolvere tutte le crisi di questo mondo, perché adesso i sacrifici che si chiedono agli italiani sono 60-70 miliardi in 3-4 anni. Basterebbe che i dentisti, tutte queste persone che non pagano, quindi perché non copiare il modello, che ne so io, americano, che sembra, questo lo dicono tutti quelli che viaggiano, che conoscono questi paesi, l'Australia, dove tutti, ma anche la Svezia, tutti sono costretti perché sanno che se non pagano le tasse gli succede un cataclisma. Ma secondo lei in Italia l'evasione fiscale non viene combattuta a sufficienza? Ma non è secondo me, sembra che i dati che ho letto in vari articoli, ma lo dicono tutti gli economisti, anche il Sole 24 Ore, di cui voi siete la radio ufficiale, dicono che l'evasione fiscale, il nero in Italia, non so, nel sud, nel nord, nel centro, ma voglio dire, non nascondiamoci dietro un dito. Io stesso ho favorito l'evasione fiscale quando non ho pagato il dentista ufficialmente, come tanti altri, perché conveniva non pagarlo ufficialmente. Ma io dico il dentista, ma posso dire il meccanico. Possibile che in Italia la fascia dei 10-15 mila euro lordi annui è la maggiore di tutte? E qui ci sono dentro gioiellieri, tutti quanti imprenditori guadagnano 10.000 euro e poi vai a vedere, hanno 6 macchine, 12 ville. Gianni, ovviamente sono arrivata la musichetta, è arrivata la musichetta, vuol dire che il programma è finito, è tutto per questa serata. Naturalmente ci risentiamo domani. Buona serata a tutti. Radio 24, la passione si sente.